E siamo anche sicuri di essere in diretta. Oh. Oh. Chiediamo il benvenuto su Creator Studios. No, non farlo. No, non farlo. Ma cosa sta facendo? Ok. Poi saremo finalmente. Ah, no, siamo in diretta o no? Perché qui parte una cosa strana ogni volta. Grazie, lo stavo già cercando. No, casaccia 2 tra l'altro. Roma Italia. No, sì, siamo in diretta. Casaccia secondo e secondo, cioè, no, è romano. Roma. Casaccia. Sociali, sì, andiamo a trovarti a giocare Alex Arcano. Va bene. No, c'è anche casaccia. Casaccia e casaccia 2. Va bene. La vendetta. A casaccio e a casaccia. Salutiamo gli amici di casaccio e di casaccia. I nostri amici a casaccio. E questa è e tutti gli amici lombardo veneti che non hanno niente di meglio da fare che sì, dalla quarantena. Qui ci sentiranno in podcast invece tra esatto. Quando magari se non siete ricaduti niente adesso poi non siete su perché uno si muove verso la voce dell'altro. C'è stata un attimo di interferenza. Laggate talmente tanto che noi vediamo muovere Salla e passiamo parlare a Marco, è bellissimo. Passiamo a Sky, sì. Forse è meglio. Non lo so, Vez, cioè, decidi tu. Sky, tra poco. Per noi è uguale. No. Si lagga tanto. Che veramente si muoveva Salla e si sentiva. No, no, perché c'è un attimo che è andata via la voce a Salla. Ma non è che ha laggato, è andata proprio via la voce a Salla. Sì, però non ha scritto effettivamente. Okay. Cioè, cagare per cagare. Almeno. E poi si vede anche meglio, nel senso che. Sì, sì, esatto. Vediamo cagare anche per cagare. E vedono meglio loro. Perché altrimenti loro vedrebbero questo. No, no, no, no, no, vedono tutto loro. Cioè noi è semplicemente tarato così, ma. No, se anche loro vedono la schermata dei tre. Ah, beh, sì, forse. Sì, siamo in diretta. Siamo in diretta? No, no, quello lo so. Comunque, questo sarà. 41. Marco, da 41 minuti. Arriva. Arriva. Ok. Ah, sì, intanto presentiamo. Questa è la maledizione di Catta. Numero. Episodio XL. Oh. O meglio, 40. O meglio, 40. 40. Peccato che non avete potuto ammirare la faccia di. Rifallo. Potresti rifarlo, dillo, rifarlo. E. Che dire, giochiamo sempre a Dungeons & Dragons come i 39 episodi precedenti più gli altri due dello special di Halloween. Ma questa volta. Ma magari arriva Marco, eccolo, arriva sente. Marco. Ecco, vedi che c'è il decollo. E mentre Marco comincia a decollare, e da Bologna siamo sempre, andiamo già come vecchi, Stefano Gamberoli, Giulio Bosi e Master Solito. Classico, solito. Giusto. Giusto non lo so. No, era questa tanto. È una frecciatina. Giusto, virgolettato. Questo era il master giusto, è una frecciatina al demiurgo questa, eh. Il demiurgo giusto. Ah, vabbè, okay. Giulio ancora non ha potuto. Non può essere ancora giustificato. Si vanta di questo gioco. Comunque, Enrico Cantabrilla. In persona. Più giù in attesa di Hobbs. No, il mio ora. Perché era la chiusura precedente. Sì. Va bene. Sì, della sessione scorsa. L'ha avvisato adesso della sessione scorsa. Che non è un problema. Non è un problema. Abbiamo da vicino a Copenaghen Edoardo Saladini. Vicino a Copenaghen, sono dentro Copenaghen. Sei dentro o fuori? Non si capisce. Ma Marco ha crashato? Cosa sappiamo? No, mi sento. Ah, metti il video però magari. Non ti abbiamo in immagine. Quando smette di parlarsi. Non è importanza. Sentiamo da Osnabrück Marco Bosi. E a questo punto, fatte le giuste presentazioni e precauzioni, lavatevi le mani e lavatevi le mani e seguiteci. Starnutite nell'interno del gomito. Ma soprattutto, fatela da. C'era il Twitter lì di Bosco. Soprattutto seguiteci sui canali social di Italia, paese in cui e Rigidi R. Il giorno prima non si lavava le mani anche dopo essere andato in bagno. Vi ricordiamo che in podcast ci potete seguire anche su Spotify, oltre che su iTunes. Tra l'altro, gran incremento di iscrizioni dopo che l'hai messo Spotify. Ah, sì? Non sto seguendo, ma mi fa piacere che c'è chi. Ringraziamo i nostri follower. Potrebbe essere sarcasmo, però. No, sono tipo 40 iscritti in più. Tanta roba. Cazzo. Tanta roba, raga, tanta roba. E abbiamo un episodio. E abbiamo. Che preoccupa, cioè. E a breve. No, ma è giusto. Cioè, non mi sorprende perché la gente non si lava le mani. Siamo il primo gruppo di gioco che stanno facendo una campagna di Lex Arcana. Raga, ma mandiamolo via sto qua. Dov'è sta roba? Lo rivendichiamo con. Rivendichiamo, siamo i primi che stanno facendo una campagna di Lex Arcana. Esatto. E a proposito di Lex Arcana, domani, per probabilmente mi contattai. Vedrete anche il terzo episodio. Cosa ha detto? No, ma sta facendo il coglione, non lo so. Io, ha spiegato Show che la sua malattia non è contagiosa. La mia? Ah, loro sono tranquilli. È ereditaria. Perché in effetti dopo tutto questi anni non siamo ancora diventati ritardati. Cosa vuol dire? Allora la metto qua. Bene, se la metto qua ha più senso che la tengo qua. Il ritardo. A proposito di ritardo, perché non posso vedere. Grazie. Comunque, cioè, l'ultima puntata è stata una puntatona di questo. Ok, Giulio. Nessuno si ricorda perché è passato più di un mese. No, sono passati due settimane. Salla, così la preferisci. Tre. E una abbiamo saltata, l'ex arcana, anche la prima. Sono passate tre settimane. Vabbè. Io me la ricordo, cioè almeno mi ricordo la mia parte. Ah sì, quella non ne dubito. Bene. Beh, è stata una delle cose più fighe che ho mai fatto, che il mio personaggio non ha mai fatto, cioè. Spezzatino di Luca Bannari. La sigla? Arrivo, devo capire se mi si connette. Una cosa alla volta. Anche se dagli all'untorno. La prossima sarà l'aeroplano, eccolo. Sempre che potremmo fare una. Ma che non ci troviamo tutti su Skype. Ognuno da casetta sua. Per evitare di spostarci in ritardo. Come ho detto che la mia malattia è una malattia del cervello, allora così. È protetto. Poi qualcuno mi ha detto che ho la chierica, allora. Ma c'è qualcuno di voi che ha Bluetooth che mi sta prendendo? No, può essere. Non può essere. Perché il mio, tra l'altro, arriva sempre dopo? Grazie. Ci vuole un buono per un cellulare nuovo. No. Allora, impossibile commettere. Collegato, vaffanculo. Allora, ok. Catta, tu mi hai inviato. Anche l'iPad non è che sia. Però. Cos'è sta roba? Mi hai mandato un link falso. YouTube. Un link falso. Un virus. Ah. Era questo? Questo è quello che c'è nel. Quello che hai scritto? No. Ah, ok. Sono cose separate. Bene. Bene, Giulio. Tutto a chi tocca. Va a ricarico. Giulio. Io. Faccio la risposta della mia parte, però. Allora. Io sono sulle tracce di Casimir, che nella puntata scorsa ha la prospettiva di sacrificarsi, se l'ha fatta sotto, inspiegabilmente. Inspiegabilmente. Io ci stavo non ho mai parlato con una persona, io con lui stavo parlando ed è scappato. Lo rivendico con orgoglio. Esatto. Alla prima occasione è scappato lasciandoci lì dicendo: ah, mi sbagliavo, voi non siete. Codardo. Voi non siete utili al mio obiettivo, me ne vado, vi lascio una merda. È una gran merda. Possiamo dirlo, Casimir. Beh sì, poteva farsi decapitare, hai ragione. No, però a dire, no. Vabbè, non servite un cazzo, se ne va così. Ma se avesse temporeggiato e avesse chiamato lui, non l'avrei decapitato lì davanti a tutti. Oppure poteva proporti di decapitare. Diciamo che Strad è riuscito nel suo obiettivo di dividersi. Comunque. Togliersi il cazzo di PNG dai coglioni, quindi. Finalmente. Siete solo voi. Quando sono riuscito a mettermi sulle sue tracce, l'ho poi raggiunto. E trovato in mezzo. Una piccola schiera sul posto. C'è sta cosa qua che. Credo sia una particella di coronavirus. L'ho trovato in mezzo a diciamo uno spiazzo che era con frammenti di carro in giro. Praticamente c'era stata un'esplosione dal centro di questa radura. Che aveva mandato frammenti di carro in giro. Al centro c'era Casimir a terra. Io mi avvicino e sbucano tre tizi che da come parlano si capisce essere lupi mannari. Al mio provare a parlamentare con loro, loro non hanno voluto, non so bene perché. Ero stato così ragionevole E quindi uno mi, il loro capo mi afferra in lotta e gli altri mi attaccano. Allora io inizio a difendermi scagliandomi contro il capo. E vabbè. Non diremo perché ti fa per essere della compagnia. Mi sa questo scontro tra tre lupi mannari e me. Fortunatamente io sono l'unico che. Era l'unico che poteva. L'unico farci. Con la spada d'argento. E tra l'altro, vabbè, adesso non abbiamo più armi magiche, ma questo non diranno altro. E ce l'ha chiesto il nostro amico. Durante lo scontro. Ne sono ancora. Sono ancora fermato. Durante lo scontro vengo ferito abbastanza gravemente, ma riesco quasi a uccidere il capo dei lupi mannari. A un certo punto arriva la mia faccia. Deus ex machina. Eh sì. Angelus ex machina. Arriva il figlio del Borgomastro risorto con la mia faccia, aka l'angelo. L'angelo con cui ci siamo scontrati l'ultima volta a Kretsk. Che inizia a combattere con un altro degli altri due lupi. Io raggiungo il capo che stava scappando e lo uccido. Mentre l'angelo uccide l'altro lupo mannaro, il terzo va per venirmi incontro, ma io strappo dal petto il cuore al capo dei lupi mannari che ho appena ucciso, me lo mangio e gli urlo addosso facendolo scappare. Il povero Wolfpip. È vero, Wolfpip, è vero. È vero. No, allora, ancora di più un motivo per ti fare padrone, ovviamente. Tutti avevo anche scritti Gnarl, Kirill. Il capo era Kirill. Alla fine. Sì, c'è Kirill. Infatti è morto. Sì, ma tanto lo riuscito. Alla fine dello. Questi, scusa, non ho capito. Tre mannari. Di Wolf. Alla fine del. L'ultima volta era un po' andato. Lui ha detto coronavirus. Maledetto, l'hai attaccato anche a me. Alla fine dello scontro vado per prendere la testa di Casimir. O comunque prendere Casimir in un modo o nell'altro. Quando compare Rina a rompere il cazzo. Vero. Perché non solo ha rotto il cazzo fino adesso, ma continua a rompere il cazzo. Dicendo che, che l'angelo era venuto da lei come avevo previsto. Mi esilio per qualche minuto a togliere i panni. Ok. Dopo aver, come avevo visto, sniffando. Non sei immune al coronavirus? Certo. Sniffando il mio sangue essiccato in polvere. Il mio paladino, sì. E dicendo che lui è venuto da lei, dicendo che era stato costretto a fare cose che non voleva, bla bla bla, e poi era stato con lei ed erano scappati, bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Cose inutili. No, vabbè, ha detto questo in realtà. Bla bla bla. E io, io allora ho più o meno detto ok, non mi interessa, voglio come al solito. Ignoro. Mi interessa solo avere la sua testa. E quando gioca i videogiochi ha il tasto ignoro dietro. Il che Irina ha detto vediamo se lui è d'accordo a venire con te o meno. E l'ha fatto curare dall'angelo. E Casimir, dimostrando ancora una seconda volta di non avere le palle, piuttosto che venire con me per tornare indietro, perché io sto facendo tutto questo perché sono ancora convinto che voi siate bloccati da strada nella nebbia e vi serva una testa. Quella. Tra l'altro c'era anche la testa di lui, mannaggia. Lui lo si è inventato a caso. No, come faccio a giustificare? No, l'ho detto anche la volta scorsa. Lui voleva finalmente decapitare lui per avere una testa. Poi è scappato, quindi l'ha fatto anche incazzare, quindi la testa da consegnare a noi deve essere quella. No, quello l'ho detto. L'ho sempre detto. Quello fa volentieri, però questo è una cazzata. Michel Utila. Vabbè, alla fine, cioè, io ribadisco, dal mio punto di vista è stato un po' stronzo Casimir. Non tanto a non farsi decapitare, che vabbè, ok, ma a scappare senza dirci niente. Cioè, tipo, fate schifo e se n'è andato. Cioè, anche no. Comunque. Però lui se n'è andato perché qualcuno gli ha dato qualcosa. Sì. Colpo di Vezza. Ah, ok, allora non è che ha preso su e andato. Detto, tieni e vai. Lui no, vabbè, poteva però, poteva metterci d'accordo. Lui invece ha detto, oh, non siete forti come pensavo, morirete, non mi servite più, e se n'è andato. Parafrasando era così. La parafrasi era quello che hai sentito il suo personaggio. Il suo sguardo diceva questo. E gli occhi non mentono. Comunque, dimostrandosi il vigliacco che è per la seconda volta, con noi, perché poi in realtà nella sua vita questa è almeno la terza, perché anche la prima ha ammazzato una sorella sassata. Ha scelto di ovviamente nascondersi sotto le sottane di Rina, esatto. Cosa molto comoda. Non avendo la forza di combattere un angelo in questo momento, essendo a in questo momento 4 punti ferita, forse anche meno. Forse anche in altri momenti. Però in questo soprattutto. Ma in altri momenti ci avrei comunque provato. Con un punto, 1 o 4 punti ferita, adesso non mi ricordo bene quanti ne. Non essendo il mio personaggio comunque non avendo istinti ai suicidi. È strano che non li abbia tutto sommato. Ha bozzato, ha semplicemente detto me ne ricorderò. In quel momento sono arrivati Arci e Sfortuna. Arci come Aquila e Sfortuna. Che è la prevenzione prima di tutto, no? Che mi hanno raggiunto in mezzo lì allo spiazzo. Sfortuna stava per lanciare un incantesimo, io l'ho bloccato, mi ha detto che voleva lanciarmi solo una cura. E dopo mi ha lanciato una cura. Capisco perché non ti fidi. No, infatti era. Sono giurato vendetta, non capisco. E poi niente, ci siamo messi a rintracciare gli altri. E ci siamo rincontrati a metà strada. Con i lupi che ci. Che ci ululano attorno. Niente, noi semplicemente. E quindi la scena finale è stata praticamente noi che ci rincontriamo con me, Arci e Sventura, tipo a cavallo. Mi pare, perché Arci aveva evocato. Arci aveva evocato dei cavalli. Aveva evocato dei cavalli. Non hai preso la testa dei lupi malari o altro, no? No, ma tanto ci dobbiamo ripassare. Vuoi tornare all'isola? No, curiosità. No, ma tanto ci dobbiamo ripassare perché noi siamo venuti verso l'isola e questo posto è verso. Sì, verso. Sì. Giusto. Verso Kresk. E ci siamo incontrati. Io sono praticamente una maschera di sangue, cioè proprio tra il mio sangue e quello dei lupi mannari. Una maschera di sangue. Però finora non mi è stato ancora chiesto nulla. Bene. E niente, la nostra scena semplicemente è che il nostro amico Stragio è andato a passare. Non capisco. Giusto? Ma questa era la volta prima ancora. Sì, esatto. Ah sì, è vero. Ma siete voi che ce l'avete dimostrato? Per me è un amico. Bene. Dopo che cosa è successo? Che siete passati? Vabbè, ci siamo riuniti a. A Race. Chiedendogli cosa è successo. Boh, passavano tutti correndo. Tipo, la tua risposta è stata questa. Passavano tutti di qua, uno è scappato, l'altro l'ha inseguito. E niente, abbiamo pensato da farsi. Ed è stato andare nella stessa direzione loro, di fatto che è l'unica direzione per allontanarsi da quest'isola. E li abbiamo rincontrati. Perché non ricordo altro? Perché è passato molto tempo. Esatto. Cosa è successo? Cazzo, un vuoto. Mi ricordo che c'era un certo punto. Esatto. Che scemo, cazzo, mi sono dimenticato. È vero, una cosa figa. La cosa più importante. È vero, sì. Niente, a un certo punto sentiamo di essere. È vero, sentiamo di essere inseguiti da dei lupi. Da dei lupi, come al solito. Cerchiamo di nasconderci, come al solito. No, per tendere un eventuale agguato noi a loro. E guardiamo in su e c'è un gufo su un albero. E poco accanto a questo gufo c'è un cervo. Sempre sull'albero, tutto normale fino a qui, e fino a che il cervo si trasforma in, cioè ritorna in forma, insomma, in un umano che non mi ricordo cosa dice, però di fatto lancia un fulmine che riesce a eliminare tutti i mannari. E poi cos'è che diceva? Blaterava, robe sì, strane. Sì, era completamente andato fuori di testa. Era, probabilmente era fuori di sé, non era tanto lucido, e diceva che. Sì, conosco io un posto sicuro, seguitemi se volete, c'è un posto sicuro. Ho detto un posto sicuro, chi se ne frega? No, andava nella direzione dei monti, diversa da quella che avevamo impostato noi sul navigatore. Ma io stavo provando a convincerlo, però sì, sostanzialmente abbiamo lato subito il colpo perché non era in grado. Non mi ricordo cosa è successo. Non è esattamente semplice interloquire con lui. Esatto. Sì, perché parlava tipo di una frase che gli avrebbe detto lui. Sì, parlava per super cazzo, le diciamo. Esatto. Come se... Però almeno ero riuscito a convincerlo che non eravamo cattivi. Nemici. È vero. E quindi ci ha salvato di fatto dai lupi. Sì, però se n'è andato per la sua strada e noi l'abbiamo lasciato andare perché... Perché sì, cioè era completamente pazzo a nostra vista. E abbiamo proseguito per la sua strada per poi rincontrare. Perché di fatto si è messo in malino, quindi... Per quanto potrebbe essere interessante. No, che andava in una zona noi sconosciuta e non volevamo affrontare chissà che cosa e andare invece per la nostra strada. E ci siamo riuniti agli altri. Esatto. Bene, quindi i vostri percorsi si rincontrano e siete finalmente tutti nella stessa zona. Siete nelle foreste qua intorno. Nelle foreste? Sì, cioè nella strada che passa attraverso le foreste, ma comunque siete in mezzo alla foresta. Scorgiamo un paladino tra le foglie. Esatto. E siamo e lui vede voi. Verso Kresk, abbastanza vicini a Kresk, se ricordo. No, bene. Abbastanza vicini, ci sarà almeno sicuramente un'oretta di cammino. Ok. O di carro, se riusciamo a cavalcare tutti. Quindi avevamo già parlato? No. No, ci avevamo appena incontrati, sì, perché noi siamo passati. Vabbè, adesso senza fare tipo comunque nel caso Salla si era sporto. Loro quando vi hanno visto si sono... sì, questo me lo ricordo, sì, è vero. Vi hanno chiamato. Incontrati. Vabbè, allora... E finalmente vi siete riuniti tutti. Compagni! Dai campi e dalle officine! Ah, sì, vabbè, compagni. Prendete la pace, portate. E che se dico amici, qualcuno dice spesso abuso. Anche che amici, dopo che questo voleva decapitare un altro nostro amico che ci ha tradito. È un po' complicata la situazione per dire amici. Insomma, conoscenti! Come i doni. No, avventurieri. Compagni avventurieri. Fratelli! Rieccoci riuniti finalmente, ma cos'è successo? Perché non tu... hai diventato un oratore? Boh, così non è uscito. Cosa ti è successo? Hai detto che di essere completamente insanguinato. Sì. Sei ferito? Probabilmente. In diversi punti, sì. Ho avuto un incontro con dei lupi mannari. Cioè, ora non abbiamo molto tempo per tergiversare. Quindi... Sta per morire, gli ho chiesto come sta. Sì, ragazzi, non c'è tempo. Cioè... No, è vero. Cioè, vabbè. Nel senso, mi verrebbero molte domande da fargli. Però adesso ho 15 punti ferita. Però dobbiamo metterci a su. 82. Siamo tutti tranne Sfortune, giusto? No, siamo c'è anche Arci. Siete tutti. Siamo tutti. Ah, c'è anche Miss Fortune. Siamo tutti. Ah. Sì, perché Arci l'ha ghermito e l'ha portato. Allora dico notizie di Casimir. Beh, sì, in teoria. Sì. È giusto. Sì. Sì. Sta con Irina. Mi fa piacere per loro. Congratulazioni, quello che ti abbiamo voluto. Congratulazioni. Il vigliacco ha dimostrato ancora una volta la sua vigliaccheria. Come con Irina? Quindi Irina è viva. Sì. Beh, questa è un'ottima cosa. Sta anche con la mia faccia. Una relazione. L'angelo, il bambino, il figlio del borgomastro. Ah, ma lei è malvagio. Quindi Irina è malvagio? No, non, vabbè, ragazzi. È complicato. Cioè, voi vedete che comunque io sono un po' provato, quindi... Vabbè, ok, facciamo così. Richiamoci. Non esiste un posto sicuro per noi dove parlare. Forse è forse meglio parlarne mentre sulla strada. Va bene, andiamo a Kresk. Abbiamo perso Kresk e a volte mi incanto. Tu, tu, personaggio sbavante in questo momento, puoi procurarci delle cavalcate. Paladino. Vabbè, un'ora di cammino possiamo farla, se no. Ce la fai a camminare? Ma siamo a cavallo. Noi no. Si può salire su più di uno su un cavallo. Quanti cavalli avete? Tre? Immagino di sì. Non lo so. No, immagino che il druido sia in forma selvatica. Vabbè, ho capito, penso che ne abbia evocato uno. No, ne aveva evocati un po'. Quindi sono tre in totale. I cavalli, le cavalcature. Sì. Per 1, 2, 3, 4, 5. Si può cavalcare due. Sì. Quindi. Ma non andrà veloce come quando cavalca uno. Beh, è giusto per non camminare. Sì, assolutamente. Ok, andiamo a Kresk. Quando passiamo dalla radura, secondo me ci passiamo, vi indico i cadaveri dei tizi. Ok. A Kresk, non, non in mezzo alla foresta. Tanto Kresk è a meno di un'ora di cavallo da qui. Quindi direi di andare su. Se è notte non lo sappiamo perché non vediamo lo stesso. Se è giorno o notte. Beh. Tanto è differente. È appunto, quindi fanculo. E io andrei a Kresk e... Ah sì, quindi passiamo. Cosa avete fatto? Sì, non c'è dubbio sul fatto che andiamo a Kresk. Sì, sì, sì. È solo, solo se ci dobbiamo muovere. Vabbè, intanto io direi che ci incamminiamo e sì, mentre sì, parliamo. Va bene, tanto siamo a cavallo. Ma voi invece cosa avete fatto mentre questo mi ha massacrato? Ma io invece farei sì che Kata ci facesse arrivare a Kresk senza problemi. Vabbè, non tanto volete parlare nel mentre o bisogna stare zitti e basta? Vabbè, tanto possiamo parlare. Cioè, piuttosto che dire arriviamo a Kresk e puoi parlare lì... Sì, è il mio obiettivo. Perché parliamo sulla strada, non cambia niente. Sì, non cambia niente. No, e... Tutti muti? Beh, noi abbiamo... In teoria siamo meno... Siete meno... Facilmente... Noi abbiamo finalmente lasciato l'isola. Strada ci ha fatto andare tranquillamente e... Come siete riusciti? Io vi volevo riportare delle teste. Abbiamo dovuto lasciare indietro tutte le nostre armi. Sì, gli abbiamo affidato un'arma, ma no, ci ha fatto passare, niente di preoccupante. E io sono ancora sotto charme, ti ricordo che... Sì, io ti guardo tipo... Per me è un amicone, quindi... Cosa significa quello che sta dicendo lui? Ci ha chiesto una cosina in cambio, a me ha chiesto la lancia in cambio. Ha voluto le nostre armi magiche, ma evidentemente deve aver... Vabbè, ce le avrà. Ha avuto un effetto particolare sul nostro. Vabbè, ce le ridarà, le avrà prese in prestito. Certo! Ma sì. Almeno due. Non serve immagine. Uno che ci invita a cena la prima volta che ci vede, può essere solo che gentile con noi. È un po' nella merda senza armi magiche. Ma non ci servono contro strade, il nostro amico, non dobbiamo combattere. Ma in Mannaria, ad esempio. Purtroppo. Sconfitti lo stesso, no? Perché è un'arma d'argento. Ah! Ed è l'unica che abbiamo. Beh, purtroppo questa. Sì. E a riguardo forse dovremmo cercare di fare in modo di ottenerne altre. Ma il fatto che io sia sciarmato vuol dire che le idee di Stradi automaticamente per sì, me sono le idee. Sei ritardato. Cioè, solito, per me è giusto che Irina vada da lei, da lui. Tu lo consideri come un amico, una persona fidata, fidato, okay. E non gli faresti del male. E qualcuno di noi si può accorgere che è sciarmato. Beh, mi sembra abbastanza palese. Vabbè, lui l'ha vista la scena, quindi lui lo sa. E se lui tipo fa del male ai tuoi amici, allora puoi ripetere il tiro. Okay, però se ora loro dicono, però se... Irina dobbiamo proteggere la strada, per me, ma perché? Beh, ma questo anche prima, lascio diciamo, la tua interpretazione. Cioè, anche prima. Infatti non cambia molto. No, no, era curiosità. Vabbè, vediamo l'evolversi. E... sei più ritardato di quanto mi ricordavo. Così per questa che e... va bene, allora... però ci ha lasciato andare, insomma stiamo bene, non capisco tutto questo astio nei suoi confronti. Cioè, ci ha anche offerto il vino. Stavamo parlando in strada comunque. Che lui ha fatto una faccia strana comunque. E no, siamo venuti via dall'isola, poi siamo stati inseguiti da dei lupi. Abbiamo deciso una cosa in comune, però abbiamo... voi non avete... No, perché noi abbiamo deciso di tendergli un agguato, ci sembrava l'idea migliore, ci siamo nascosti e su un albero abbiamo notato un cervo che poi si è trasformato in un uomo che pare essere un mago perché ha lanciato un fulmine devastante che ha ucciso tutti i lupi mannari e stava per attaccare anche noi, ma l'abbiamo, anzi, il nostro prode paladino l'ha convinto a... E dove è andato? Al fatto che... poi voleva convincerci ad andare con lui, nel senso che stava andando secondo lui verso un posto sicuro e si è allontanato verso le montagne. Noi a nostra volta abbiamo provato a convincerlo a venire con noi. Prima o poi ci dovremmo andare. Ma parlava in maniera veramente strana, cioè sembrava fuori di sé, era pazzo. Sì, cioè sembrava una supercazzola. Non so se c'è supercazzola in questo mondo. Aveva un libro questa persona? No, non aveva un libro questa persona. Ma lui non lo può sapere. Ma lo sta chiedendo. Hai ragione, rispondete al... No, non aveva un libro questa persona. Bravo. Beh, io nel mentre prendo la bottiglia di vino di strada e inizio a bere. Non hai visto se avevo un libro in mano. Avete per lo... come sì, si sì, dice? Osservato, avevo questa tunica nera, questa fibbia. Fibbia. E la fibbia. Nient'altro. Mentre io bevo un sorso dalla bottiglia... lenire un attimo il dolore. Ma vi ricordate cosa ci ha detto? Non mi ricordo esattamente chi. Grandistani, nel primo accampamento che avete visto quando avete lasciato. Che un mago era venuto a combattere Strad qualche tempo fa. Ora ricordo! perfettamente. Ne abbiamo parlato verso casa l'altra volta. Ma io me lo ricordavo, quindi io è presumibile che lo dici. Cioè, sì, qualcosa ricordo anche io, ma si sa che fine ha fatto questo mago? No, però potrebbe essere lui. Potrebbe. Gli aveva raccontato questa storiella. Si sa che è stato sconfitto. Però. Esatto, di l'ultimo che... Però non mi ricordo se era... intelligente. Non mi ricordo se... Sì, vabbè. non mi ricordo se tipo era caduto da qualche parte, ma il suo corpo non era mai stato trovato, qualcosa del genere. Quindi potrebbe essere lui che ha subito... Beh, di maghi... Maghi tanto potenti, sarebbe conosciuto qualcosa. Alla fine riesco a regediarci, però te lo dico. Te lo dico, cazzo. È vero. È vero, ma... Allora, la storiella che vi aveva raccontato il tipo... Guarda l'intelligenza, guarda. Mi sono perso... Cioè... Un ritardo grave, assolutamente no, ma è anche un po' per scorreggiarci tra poco. No, è agghiacciante. Oggi leggevo una mia ex collega, stava cercando di bere attraverso la mascherina. Le scorreggi di arci sono agghiaccianti. Ma quello non ci preoccupa. C'è l'altra uscita che è il prossimo. Esatto, ci sta quello. Esatto. Oggi è una fagiolata. L'hai mangiato? No, una mia ex collega diceva che oggi ha spedito 100 grammi di fagioli. Uno scatolone di mascherine. Oggi gli hanno detto che non sono arrivate a destinazione. Quindi qualcuno le ha rubate. Grandissimi. Adesso volevo comprare una macchina qua. Se vi servono mascherine, possiamo trovare un accordo. Io le sto facendo 15 euro al grammo. Si taglia bene, si fumano. Perfetto. Si possono anche usare per coprire. A me mi hanno spiegato come si indossa. Così. C'è il cazzo di internet. Ha spiegato che si indossa così. Ma io esegno. Allora. Però mi ha detto che la mia malattia è al cervello. No, ma allora... se ne voglio contare. Una coca zero. Cosa, scusa, ma no, è molto buona la peronica. Mi sta bene, la gente svuota. Salla, sai, Salla, a Copenaghen hanno chiuso la frontiera a noi feccia infetta? No, ti mandano a calci in culo a casa. Beh, ma per maggio. Ti mandano a calci in culo a casa, maledetto. Sei colpa tua. Ma guarda. Ma sai che in realtà, secondo me, pensavano di farlo? No. Se mi viene un 37 e mezzo, due colpi di tosse fuori posto, ci penso di andare a Parigi. La Romania, sì, vabbè, in realtà la Romania fa quarantena per chi arriva dal Lombardo-Veneto, per ora. Sì, no, anche a Francia, fa solo quarantena per chi arriva, no, in realtà tutte le regioni di merda, quindi anche Emilia-Romagna, Piemonte, anche se non ci sono casi. No, Piemonte sì, no, ci non ci sono casi, c'è un caso a Torino. Ah. Sì, ma sono in Emilia-Romagna, dall'altra parte della Romagna. No, sì, Torino sì. Ci sono tre casi a Torino. Tre. Sì. Ci sono in Emilia Romagna, c'è tipo uno a Modena, due a Parma e tutti gli altri a Piacenza. Perché i piacentini di merda sono attaccati alla Lombardia? No, cioè. Sono tipo 17. No, in totale in Emilia Romagna sono tipo 19 forse. Comunque vediamo, probabilmente alcuni stati metteranno l'opzione rimborso voli, quindi io non lo so, magari non torno. Devo tornare venerdì. Ragazzi, dovevo andare a vedere i pinguini tattici nucleari a Milano, mo? Povero Vez. A parte che Vez ridendo scherzando. Per venerdì, domenica, la profezia della morte di Vez prima dei 40 anni? No, ma che 40? 35. Beh, si impegna Vez con me? Sì. Non ha problemi respiratori. Beh, un po' di smetta. È asmatico, come non ha problemi. asmatico, allergico a qualunque cosa. Quindi ti dice che è tutto sto casino perché lui deve mangiare prima. Ho capito, cioè, qualunque particella. È che a Vez gli piace fare le cose in grande. Cioè, è allergico a qualunque particella si muova. Per... Comunque, a parte tutto, l'altro giorno, tipo ieri, la cugina di Vez ha fatto un giro per i supermercati, faceva tutte le storie su Instagram. Sì. E c'erano tutti gli scaffali di ammucchina e alcol vuoti. Ma infatti io vorrei venire solo per fare delle foto alla gente ritardata. Ma no, ma la gente è ritardata. Sì, sì, guarda, comunque più che a Bologna di Milano, fatto, a Milano ancora di più. No, io vado a Torino. Torino non lo so, però gli amici di Milano che mi dicono che è proprio una follia. Ma cazzo, ma tu comprate della grana ammucchina e venite qua a venderla. Questo gli hanno fatto sì, vale a dire, il poliziotto ti dice non puoi vendere a quanto la fai. Mi ricordo dove era. Scusa, quello è un carrello di una persona. A parte che scusa, durante il giubileo, quella è una persona che sta facendo a Roma le bottigliette d'acqua a 3 euro. Amici me l'hanno mandato, sono andati oggi. Vabbè, quindi, però... quindi vale tutto. Sono andati oggi in una questa cos'è? Non mi ricordo quale cazzo sono andato. Vino? Cosa sta? Un carrello pieno di... Sì. Si combatte con l'alcol? Sono i panettoni di Capodanno. Si combatte con l'alcol? Sono un tipo di bottiglie. Ah. No, sono bottiglie. Noi che abbiamo, acqua. Noi che abbiamo l'alcol. Si dice così? No. Birra? No, ma... Alcol. Perché fa per disinfettare. Birra? Forse birra. Ma d'altronde se l'età psicologica media della gente... Sì, vedi, Poretti. Che cazzo ci fa da sta birra Poretti? Non è neanche buonissima, bravo. Sono tre carrelli pieni di cazzo di birra. Oh, cazzo, metti che c'è la quarantena e io li ho a casa apposta. Guarda che cosa qua, riso. Ma non è neanche una birra Poretti. Ma bene di prima necessità. La birra Poretti. Che c'ha. C'è la birra Poretti, ci vuole sponsorizzare. Lei che non registra a tre carestie di filo. Che cazzo compra i zombasmati? Non è che il coronavirus riduce le scorte alimentari. No, questa sì che le riduce, so se l'hai vista. No, è una signora. Sembra Moby Dick. Che è come la sessione di oggi. Gliela mando. Aspetta. Vabbè, qua c'è un po' di tutto. Cosa vabbè, comunque sì, c'è gente che sta messa male. Cioè, qua è il gran tonno. Beh, che farò fa girare l'economia, eh? Che mascherini, tipo mio ma padre che ha detto che la gente in farmacia va a buttare via soldi in ste caccate. Sì, quello sì. Ma sì, in un autobus un cinese. Beh, quello avrebbe fatto anche se non c'è il coronavirus. Almeno è giustificata adesso. Ma c'è la vita. Ma cosa fai? Per ora non c'è nessun cinese che... Personalmente bisognerebbe picchiare i lombardi coglioni che vanno adesso a farsi le vacanze in Trentino fregandosene. Cioè. Cosa è? Nuovo... Non è stato l'altro giorno a sciare? Sì, a Cortina. Vabbè, ma siamo in quarantena ancora, no? No, non era a Cortina. San Martino di Castrozza. San Martino, vero? Grazie. Questa quarantena. La scoreggia, ma porca puttana. Ma pensavi che fosse il mio cellulare. Ma ho capito, ma tu vieni il lunedì sera da mezzo per scoreggiare. Questa non puzza, questa non puzza. Questa non puzza, ha dichiarato. Ragazzi, non mettere su acqua robe strane che lo fai digerire. Questa non puzza, stai tranquillo. Te lo dico se puzza. Questa non puzza, adesso vediamo. Te lo dico se c'è. Cioè, forse, vediamo. Hai del deodorante per ambienti. Deodorante per ambienti. Vabbè, comunque stavamo parlando del mago. Esatto, vi ricordo. Quando avete cominciato? Ci siamo appena incontrati, ci stiamo aggiornando. Perché c'è stato... Boom. Perché c'è stato un qui pro quo dovuto a problemi. Cosa è cambiato? Beh, senti. Che non ho voce. No, senti, ma è un po' più abbassato. Non so, per ora non li danno, ti offendi? No, li mangi, stronzo. Mangiateli voi. Cosa sono? I dolcetti dell'altra volta. No, solito li mangi. Perché Vezza c'è un po' l'untore, li intoccia nel suo sperma e poi ce li passa. Esatto. Ma Vezza è l'untore, non ha avuto la febbre prima di tutto. Mm? È chiaro? Sì. Guardalo come giuisce. È sì, è lui. Dagli all'untore. Magari è il paziente zero, non è Renato. È difficile che sia il paziente zero. No. Comunque, questa volta stavo per dire, avrebbe da prendere un altro carrello, poi c'era. Ma non hai visto che sembra tipo l'orso zombie di Benvenuti a Zombie? Quello del supermercato. Tra l'altro alla prima brutta curva. Non ho appena finito di raccontare. Cioè, ha preso un cartone di ogni cosa, cioè c'è di tutto. Ma un quantità di riso industriale. Ma magari questa qua, secondo me, peso. Vista la tizia, è probabilmente la sua spesa normale. E poi cena, perché... Allora, si sono aggiornati raccontandosi quello che è successo all'ultima volta. E vi sto ricordando la storiella che vi aveva raccontato un cantastorie Vistani nel primo accampamento, quello subito dopo che avevate portato via Irina dal suo villaggio. Naristi? Ma Naristi non l'abbiamo ancora incontrato. No, Naristi non l'abbiamo ancora incontrato. Che aveva detto che ti chiudeva, no? No! Ricordate le sue parole che vi dicevano: un potente mago venne in questa terra più di un anno fa, me lo ricordo come se fosse ieri, stavo esattamente dove stavate voi. È il racconto che un vistano vi fece all'inizio della campagna. Come noi abbiamo incontrato questo mago cervo strano, lui ci ha ricordato, grazie in realtà a un colpo di memoria di Giulio, che gli stani ci raccontarono una storia su un mago che ha combattuto strano. Era un uomo molto carismatico e pensò di poter radunare le genti di Barovia contro il malvagio Strad. Ma qui adesso dove siamo noi? Siamo andati dove? Dove eravamo arrivati noi in mezzo al bosco? Sì. Un poco lontano da lì. Mentre tu stavi cercando di uccidere i lupi. Io ho ucciso. Siamo verso Strad, ci siamo riaggiornati l'un l'altro su quello che succede. Siamo full. Stiamo tornando verso Kretsk. Io sono full. Siamo folli. Tu sì. No, di punti vita sì. Ho usato qualche incantesimo, ho usato qualche folli. Sì, a mia saputa ovviamente. Sì, a più saputa. Okay. No, l'altra volta c'eri, avevi evocato i cavalli. Sì. Quello. Ah, ma ero già scarico dai vostri. Sì. Ha radunato la gente in rivolta e le ha portate al castello in massa. Quando il vampiro apparì, l'armata del mago fuggì in preda al terrore. Pochi terressero. Erano tutti dei Casimir. I pochi che rimasero a tenere la posizione non vennero mai più visti. Il mago e il vampiro si lanciarono incantesimi uno contro l'altro. La loro battaglia imperversò dai giardini del castello di Ravenloft fino al precipizio che sta sulle cascate. Io mi ricordavo ho visto bene la battaglia con i miei stessi occhi. Un tuono scosse il fianco della montagna e grandi rocce caddero sopra il mago, ma grazie alla sua magia sopravvisse. E dei fulmini dai cieli lo colpirono, ma ancora rimase in piedi. Ma quando il demonio Strad lo ghermì, la sua magia non lo poté salvare e lo vidi cadere per migliaia di piedi fino alla sua morte. Ho scalato fino a raggiungere il fiume per cercare il suo corpo, per vedere se sapete ci fosse qualcosa di valore, ma il fiume Iblis lo aveva già inghiottito. Quello che vuoi detto, che era caduto da qualche parte, non si era ritrovato il corpo. Sì, no, l'avevo raccontato anche prima, ma tu non c'eri. Quindi non c'ero, vediamo il replay. Vediamo il replay. VAR! Il puntato. Cosa va? La VAR. Vabbè, ciao. Cos'è VAR? Non usare questi tecnicismi. Cos'è VAR? Assistente, video assistente. Hai ripreso? Video assistant referee. Ah, che referee. Non lo so. Non ho mai visto una pecca di calcio. Viola in campo, diciamo. Non nominare quella cosa da secchi in sua presenza. Più o meno bianca o gialla, è un pallone. Non è andata avanti. Viola, sarà viola. Vabbè, andiamo avanti. Non in Proseguiamo. Bene, dopo questo flashback, fatemi un survival di gruppo. Oh, finalmente. 19 di dado. Più. Survival e sopravvivenza. Sì. 6, 25. 7 brutto. Trovo anche la mamma di Strad. 13. Beh, non è 13. 16, no? Bardistron? Non ti hai fatto? 10 più 3. Ah, 13. 13. Mentre Vez corre dentro la tana di un gufo dicendo ho trovato il castello di Strad, io cosa vedo? È di gruppo, quindi è 13, Garrosh al 13. Se loro fanno viene... tutti schifo tu giri. Aspetta un attimo, vedo... ah, perfetto. Garrosh 13, Atanas 7, Vardistran 8. Oh, io sono mezzo morto, c'è sta anche però. Gli altri due? Piuttosto non lo tiro. 4. Salla la mascherina sugli occhi. Non ti hai fatto, Marco, scusa? È difficile. Non pervenuto. Salla, presente quando gli avevo chiesto a Betsy di trovare un albergo con una bella colazione. Sì. Ti faccio vedere cosa vuol dire? Tra le proposte quale mi ha messo. Che ovviamente non è quella che scelgo io. Comunque colazione trovi anche fuori. Basta, cosa sto a incazzare. Allora, si vede che fuori non trovi una colazione a 3500 calorie a 5 euro. In albergo sì. Alla fine abbiamo scelto tu andresti in albergo per la colazione. Una tonna. Sotto un alloggio, praticamente due brandine, sotto il bancone di un doppio fabbraccio. Scusi, per il vassoiero quando è vuoto non si può dormire. E gli altri ospiti gli tirano gli avanzi. No, è ok. Dobbiamo solo servire un po' i tavoli, ma poi possiamo. Per quello che rimane loro. Ce la fai, Marco? Se fai la spesa poi venire a fare la cena da me. Beh, ma direi che mi sa che anche qualunque quale che sia il risultato di Marco, abbiamo comunque fallito. Vabbè, sono un mega risultato. Fate che tu vai a lavorare. No, in teoria la prova di gruppo è la metà, devono riuscire. Lavoro solo una lì. La metà devo riuscire. No? Mi fido io, Giulio e Salla abbiamo sicuramente fatto. Tutto abbiamo fatto? 7. Allora, io, Giulio e Salla abbiamo sicuramente fallito. È l'ago della bilancia. Tu hai fatto? Allora, sì, 25 ho fatto. No, dipende io, no? Dipende quanto fa pare. Quanto meno. Quanto pare, gli altri ti dicono: no, che cazzo dice da quella parte? E tu sei in minoranza. Prima chiedono se anche questo manico sono capito per impiccarsi. Cioè, devi fare un 12. Non è inutile, cioè nel senso 4 su 7 hanno fallito. Vabbè, era per darvi un po' di speranza. Ma noi non vogliamo fare una prova di gruppo, noi vogliamo cazzo. Scusa, abbiamo mica parte però. No, è vero, però la carta caccia serve, cioè loro sono degli imbecilli, è chiaro che tiri io. Senici. Ma possono fare la prova anche i cavalli? No. Magari ci danno con 16 forse ce la caviamo. Vediamo. No. Ha già riso, carta. Che altro c'è? Vabbè, io 13 comunque è un buon risultato. Io neanche mi metto. Ha fatto un buon risultato. Si tratta di capire la strada per Cresco. Io conciato come sono conciato, neanche mi metto a cercare le cose. Cioè. Fate in pratica tre buone e tre meno buone. Sta che ci pensi la guida, la guida della foresta, no? Sei riuscito. Vediamo. Infatti, dopo un po' tu ti accorgi, ragazzi, stiamo andando nella parte sbagliata. Ragazzi, la strada dritta, dobbiamo andare a Cresco, abbiamo già fatto avanti e indietro 12 volte. Era sottinteso che per via della nebbia avevate perso il sentiero e stavate cercando di ritrovare la strada di casa. Se conti alle volte che abbiamo fatto avanti e indietro, veramente sono da... Vabbè, quindi non era per troppo lento. Infatti non cioè, io al botteghino ci so andare anche quasi bendato. Ma non c'è il botteghino. Anche bendato, dai. Dormendo sì, più che meno. Alcune volte probabilmente è successo. A un certo punto la nebbia. Siamo già a Lisbona. La nebbia si diradda un pochino. Comunque al massimo siamo già a Madrid, perché è stata la tratta. Sì, no, infatti quella è stata. Esatto, lo sentite più lontano e infatti è quello che vi ha un pochino sdeviato perché cercavate di evitarlo. Non ha deviato niente, veramente, però. Va bene. Ce lo puoi rinfacciare, vedete? Ve l'avevo detto. Sopra la linea degli alberi, una volta che la nebbia si dirada un pochino, vedete il lato di una montagna rocciosa. In mezzo a questa parete di roccia, montagne. Siete trovati dall'altra parte. Dove cazzo siamo? Dalle montagne. Ma non ha senso. Siamo persi. Avete ritrovato la l'orientamento? No? Beh, l'avevo messa qua, sotto Arci. Ah, sotto Arci. C'è delle sala così. La stai tenendo giusta, sì. Questa sala era l'albergo che vi proponeva Vez. Uno di quelli, noi. Ma da qua vi siete persi e vi siete ritrovati qui. No, lo sapete. Posso andare qua, guarda che colazione è. Mi c'entra con gli altri. Come siete malfidati, però. Vabbè, ma non è l'altra parte, è. È un po' più là. Sì, sì, guarda, vabbè, quella, guarda quello che ho scelto io. Sta a vedere queste foto orrende. Stavo che non esagerando, ovviamente. Perché tu non l'hai guardato? Perché non no, me lo ovviamente, no. Contentiamo Arci quindi prima il bel che arriva. Anche perché faccio una bella colazione, Arci. Gli uno mi ha detto non ci sono foto della colazione, quindi fa merda. In realtà c'erano delle foto del buffet, solo che c'era la frutta, vabbè. Quindi non andava bene. Ragazzi, questa è la colazione d'albergo. Ci sono. Guarda che schifo questa. C'è una colazione. Ma quello c'è formaggio, c'è affettati, c'è del pane. È un albergo, perché c'è delle altre. Sono delle marmellate. Sì, ma vedi che è da pezzenti. Da pezzenti. Guarda la colazione che ho scelto io. Non saprei. Guarda, aspetta, vai verso destra, sono le ultime tre foto. Quella. Vuoi se mettere? Vedere quanti ospiti ha, perché se questa è per 50.000 persone, quell'altra è per due. Vabbè, questa è sicuramente più ricca, ma. Bravo! Ma probabilmente qui c'è anche più gente. Costa anche di più, se è per questo. Sta zitto, ragazzi. Allora meglio l'altra. Qua Vez noi possiamo mangiare fino a che la morte non sopraggiunga e girare per tutta la giornata con la pancia piena. Arturo, che cazzo sei? Cioè, fai un pasto al giorno. No, però, tanto... Oh, sì, dai. A proposito di cose che mangiano altre cose... Poi che era dritto fino a sé. Che l'aver avuto già l'influenza non mi aiuta. Dal fianco di questa montagna rocciosa, vedete che spunta questo promontorio. Immaginate tipo la... Quindi il film è tutta stata giusta? No. No, vi sto dicendo dove siete arrivati e dove vi accorgete che appunto, c'è un promontorio dove volevate. A forma, stranamente a forma di drago. No. Immaginatevi tipo la rupe del Re Leone, però questa... Ah, no. Sopra c'è un babbuino con un leone tra le mani. Un cuccio. Girate, alla vostra destra c'è una giraffa che si in capo. Che non si capisce perché dovrebbe scappare, dato che... Ma anche tutte le antilopi e le gazzelle. Ma va bene. E, vedete che questa rupe ha la forma di una gigantesca mandibola di un lupo aperta. Delle stalattiti fanno i denti, il promontorio è il muso, e dalla bocca vedete che zampillano qualche lume tipo di una torcia accesa all'interno. Oh, non me la ricordavo così Kretz comunque. È cambiato tutto. Perché quelli che abbiamo lasciato hanno fatto un po' di restyling. Abbiamo sbagliato. Avete visto che avete sbagliato strada. Quindi abbiamo trovato un altro posto. Un promontorio a forma di più o meno testa. Me l'avevo detto che non era di qua. Avevi ragione. Mi metto a suonare un attenzione. Vabbè, direi che torniamo indietro. Bene, da indietro sentite gli ululati dei lupi. Direi che andiamo avanti. Abbiamo davanti una testa di lupo e dietro i lupi. Decidete dove andare. Scusa. Viva il lupo. No, Saladini, i lupi sono una specie autoctona che va per salvato. Quante voci, quanti versi di lupo. A meno che non diano exp. Dai, e quel cazzo di caso mi sarebbe servito anche adesso. Perception. Lupi? 17, quanti lupi sentiamo? Sono più di una dozzina. Direi che non li affrontiamo. Cioè, ne sono lupi se... Perception, canta. Sono due. due scarsi. Se sono normali lupi possiamo anche... Si capisce la differenza dal verso se è mannaro? No, un lupo normale è indistinguibile da un mannaro quando sono in forma di lupi. Possiamo anche inventarci una difesa. Perché ma è una classica frase mannari... per dirti sono 24 lupi mannari. Alla fine se sono una dozzina, hai detto? Più di una dozzina. Pensi che sia una dozzina, poi. Più di una dozzina vuol dire compreso tra 13 e 45 mila. Abbiamo idea. L'ultima volta erano 60. Mettiamoci a dormire, riposiamo. Poi... stiamo per essere attaccati da una dozzina di lupi. No, cosa... vero, abbiamo sentito degli ululati in lontananza. Che diversi. L'ultima volta c'erano 60 mongrel, ma noi ne abbiamo ammazzati e sterminati una quantità. Vero. Lo so, vogliamo. Non c'è un punto che possiamo accamparci dove il loro numero non conterà nulla. Beh, c'è una cava. Di, secondo, una secondo me è tipo andate nella grotta. Sì, andiamo, chiaro, però possiamo affrontare i lupi comunque. Magari ci dà l'esito, ho capito, ma quanto cazzo di vita abbiamo? 2 punti di vita. Io 15. Vabbè, sei tu, a parte tu, i due altri sei no, no, anche lui ha 15. Se... vecchio, se non mi avete buttato nel cesso le cure, ne hanno usato solo una di cura. È vero, una sola. Le ho buttate due nel cesso, non posso curare. Sì, ma il punto è che Reisa 42 su 51 e vabbè. Voi altri state tutti da io 15 e ho questo perché tu ti sei messo già a lottare e ho, e ho finito tutto le mie skill e quindi diventi il candidato per diventare Gori. Vezza 15 ha finito tutte le sue no, cose, quasi tutte le sue Leon cose. Leon Hansen non l'ho usato. 55. Oh, perfetto. Fanculo, catta. Vabbè, allora sì, possiamo affrontare i lupi mentre io vi incito da dietro. Aspetta, dillo di tutti. Beh, curo Giulio. Curo Giulia. Avete i vostri caster? Avete Garrosh a 56. Non posso fare incantesimi. Io faccio così, curo Giulio. Ma mi spari un... ce l'hai polimorph? Fatka a tutto e sfortunato. Beh, tutto. Mi sa che sono full, non abbiamo combattuto. Fai polimorph sì, a Giulio. Siete freschi come delle invece rose. Che curate, invece che curarlo, fagli un polimorph. No, perché... polimorph ne ho due, sono preziosi. Intanto lo curo. Mi sa che avevi subito dei danni dal mago, come tutti gli altri. Peccato sai cosa, è che curandolo faccio in modo di non aver più... evasione. Così se sparavi vabbè, un polimorph. Cioè non lo so. Ho segnato che hai subito 9 danni. Non so come. Io mi sa che non posso fare incantesimi. Se no ti potrei fare Giulio. Allora forse siamo una sessione molto fa. 66 hai. 66. Ok, allora probabilmente era l'ultima sessione che avevi. Giulio aggiungiti 11 9, che lui è dopo. 20 pf Giulio. 20. L'entrata della grotta va verso l'alto inerticando. C'è una piccola roccia che posso mettermi sopra da qualche parte vicino. Per fare un discorso di incoraggiamento? Sì, c'è. Okay, okay. Allora metto il colpetto alla vada. Ragazzi, venite con me. Che dovete per salvarlo. Sfortuna, quanta credibilità può grazie per esserti offerto sfortuna vantaggio su tutte molto poca però ha un talento che dice che avete dei punti feriti temporanei immagino ah. Sì. Peccato per il discorso completamente sbagliato ma mi piace allora, io volevo capire una cosa non avendo più il mio no, il problema è che sono mannari focus in teoria non puoi lanciare gli incantesimi che ti richiedono non abbiamo componente materiale M. Quindi se non cura ferite paradossalmente io lo potrei perché? Fare perché cioè, gli unici che possono danneggiare dei lupi mannari è gente con le armi d'argento e ne abbiamo c'è. Una magiche non va bene? O ma magiche io posso quando mi trasformo sono magico lui no, lui no no me l'ha chiesto in prestito bello sto discorso Salla no combattiamo in tre e io scusate noi siamo a livello 8 e non abbiamo armi magiche nel team ne avevamo due ma sono state ne ha prese strada ha chiesto strada potevo dire di no come poteva dire di no a strade così perché hai buttato tutto il suo zaino nel water per sono molto più leggero ti ho offerto il vino è stato gentile c'è cioè che sono cose non ce l'ho solo io sto bevendo un altro sorso tu Sala non hai un'arma magica? Mai avuto Sala con cosa combatte? Ah è vero il trickster lascia stare col carisma con cosa combatte col carisma non hai delle spell che fanno danno la parte scevole non è che qua lui si maschera in persona altre persone immagino Sala io avevo una buona arma magica. Ah, adesso rimpiangi la tua. No, la mia era anche un pugnale più uno. Continua di essere magica. Ma no, la magica peggiore della storia delle armi magiche. E io ho detto: forse sei tu. C'è Salla e c'è la mia spada d'argento. La tua arma magica? Ma tu stai lì a combattere con la spada d'argento. Quando hai un HP, lancia la spada d'argento. Va avanti, Vez, tu vai in indietro. Il cambio. Stile gladiatore. Salla. Vabbè, ragiona un attimo. Oddio. Lui ha un'arma. Ma comunque 35 punti ferite. Non ha più nessuna delle mie abilità. Non è che sei gladiatore. Uno ha lo scudo e l'altro la spada. Allora, io ho un'idea. Con la catena. Accendiamo un fuoco. Non possiamo entrare nella grotta e entriamo nella grotta. No, entriamo nella grotta, accendiamo un fuoco e creiamo una fucina. Dopodiché forgiamo dalla spada di Giulio. Facciamo tante creeremo spade. Creeremo 5 pugni. 6 pugnali. E stuzzicadenti d'argento. 6 piccoli pugni. Zombie di lupi. 1 di 2 meno 9. No, non possiamo. Va pieno. So che può essere un rischio, ma magari sentiamo nella grotta riusciamo a limitare l'effetto. Non hai sentito loro. Sfortuna? È il momento, è il nostro momento! Sì, sì. 12 punti in ferita! Non dico di non combatterli, però se ci rifugiamo all'ingresso della grotta il loro numero non avrà effetto. Certo, ma anche la nostra fuga non avrà effetto. Il loro numero non avrà molto effetto, effetto, non è per scappare. Pian piano. Invece che scoprirci... Io normalmente ti direi di sì. Tuttavia, ti ricordo che in questo gioco, quando noi vogliamo attaccare qualcuno, è praticamente impossibile. Ma gli avversari possono stare in 46 in un quadretto. Quindi è inutile fare questi discorsi. È il vantaggio per il quale Carter non usa la griglia. Con la griglia lui non potrebbe dire stronzate. Ma se questa griglia è solo di sotto pistolina, ti ricordo invece lui può dire no. Che l'altra volta c'erano due posti e tipo due posti davanti. E Carter siamo ad attaccare da 12 contemporaneamente. Questo perché si beccavano gli attacchi. Questo perché è il master, quindi alla fine fa quel cazzo che gli fa. Quindi alla fine è inutile che stiamo a valutare queste cose. Ma se poi lui ci premiasse le nostre tribolazioni con dell'est, questo appena dopo 15 secondi. Il quarantesimo episodio. Il quarantesimo! E siete all'ottavo, sono. È un livello di 5 episodi. Ne abbiamo fatto il 7 quando c'era la SARS. Adesso ne ho fatto l'8. Bisogna aspettare la prossima. Siamo saliti di due livelli nei primi due episodi. Quindi no, è chiaro che sono 5. Sono 5 livelli in 40 episodi. Sono 5 in 40 episodi. Vez, appena finirà la campagna, farai un livello. Anzi, beh, sai cosa ne farai un altro anche dopo la fine della campagna? Quando brucerai la scheda. Quando sarà finito, Vez? Il lunedì dopo farai anche l'11. E lunedì dopo il 12 e così via fino al 20. Peccato che la campagna finisca appena fai il 10. Merda. Quando sono legato in una sedia livellata. Quando sarà finita la campagna di Catta, sarà tipo la sessione successiva di Umbra Imperi. E vedrete tipo tutti noi dire tipo, ragazzi, perché non mi seguite noi? Scio, tu cuoco. Devo tirarla per le lunghe, insomma. E un gladio l'ingresso... scende dal cielo. La spada di Damocle. La grotta è larga 30 piedi. Merda, non vogliamo la grotta. Il diplomatico fa. Gliel'ho chiesto io quanto è grande l'ingresso per capire se potevamo fare una specie di agua. Cioè, almeno c'è coperto su tre. L'ingresso è a forma di fauci, quindi ci sono delle stalattiti che fanno i denti di sopra e delle stalagmiti che fanno i denti ma di sopra. Ma è sopraelevata sta grotta? Si tocca. Cioè, no, ci conviene comunque andare sopra perché almeno abbiamo light ground. C'è sopra la bocca. Non c'è un promontorio. Questa caverna è sopraelevata. La fauce sopra, il promontorio. Cioè, l'ingresso della grotta. Cioè... io pensavo di metterci sulla soglia della grotta. Perché così abbiamo il terreno sopraelevato. Quello, e poi non ci possono attaccare. A meno che non ci sia qualcosa dentro la grotta, non possono attaccarci da dietro. Scusa, non possono circondarci. Sì, Arsh, Marco. Quindi... sono stalattiti e stalattiti di grotta, di roccia o di ghiaccio? Stavo di parlando roccia. Di te. Cosa? Sì, è roccia. Detto. Parlavo di te. Grazie, Marco. Con l'ordinanza, con palestra? La cantina, vuol dire? Tra l'altro le cantine giganti, non ci posso portare via. Hanno fatto l'ordinanza e la Prime, che è la palestra più grande di Bologna, in centro, aperta. Ma guarda che in realtà hanno specificato oggi non prevede impianti sportivi, palestre. Però oggi in teoria era... Anche se... No, semplicemente non si era capito. Ma la Sempravanti aveva chiuso. Pontevecchio chiuso. Infatti alcune hanno chiuso, alcune no. Infatti anche noi inizialmente avevamo detto che tutta la settimana è... Anche a Fratello di Torre che si allena, ha detto oggi niente basket. In teoria deve essere tutta la settimana, invece stasera è arrivata la cosa, domani si gioca ma non c'è il pubblico, tipo una roba di genere. Porte chiuse. Bene. Quindi fa la partita ma non può esserci pubblico a lanciare il popcorn. E io propongo di metterci in fila, diciamo, sulla soglia. Cioè, come andiamo sopra e quando ci raggiungono vediamo. Stare sulla soglia della grotta ad aspettarli. Ma da sopra non possono raggiungerci in nessun modo. possono cercare. No, sì, possono sì, raggiungerci, cioè, però noi siamo sopra e quindi abbiamo vantaggio. Sì, sì, ma cioè, tipo, ci allora, sono tutte le rocce che portano, esatto, che portano ma, in alto. Ma possono arrivare da tutti i lati o sono due piozzole, tipo? No, l'ingresso della grotta è unico. È chiaro che a seconda di come... Qua c'è la bocca, no? Sì. Giulio vuol stare qua. No. No, non mi sembrava. Allora, dove vuoi stare? All'ingresso no, perché della grotta è comunque sopra. Dentro, però. Sì, però, allora, da qui arrivano l'ingresso, i lupi. Guarda, davanti. Da qui cioè. Arrivano i lupi. La grotta è qui. Si sì. Arriva così alla grotta. Lui vuole metterci qua in modo che siamo ma più dentro in alto. Ma dentro le faccio? Sì, sì, subito lì dentro. Sulla soglia volevo metterci. Sì. Dove riusciamo? Sì, sì, va bene. Okay. Facciamolo, dai, combattiamo. Quanto spazio c'è nelle allora, facce? È largo 30 piedi. Tradotto? Hai tu sfida. 6 quadretti. Tradotto. 6 persone. 3? Sono... 9 metri. 9, sono... sì. 9 metri. Ok. Metri e mezzo. Possiamo metterci esattamente in fila per 6. Se preferite, ovviamente, non so... Non so se vuoi fare un polimer, provo a tenerlo. Come procedete? È inutile perché il polimer fa danno ma sono immuni. Se sono mannari. Sì. Il polimer non fa danno. La bestia è una bestia vera. Non è ah, non è magica, certo, che scemo. È che così vabbè. Se li vediamo da lontano. C'è la torre, infatti. Cioè, ci rendiamo sparare. Subito conto se sono mannari o no, lanciando i due frecce. Se sono mannari o no, e se sono tanti o no. Come procedete? Ci mettiamo. Saliamo, andiamo. In che ordine? Chi va per primo? Ma siamo lì dentro. Vabbè, è iniziativa. No, fermi. Chiede chi va per primo chi verso la grotta. Vabbè, vado io. Vabbè, tutti in realtà in contemporanea, non c'è un primo. Vabbè, immagino che non ci sia. Che non sia il portico di Bologna. Io sono il più veloce. Ok, quindi parti e corri. Beh, credo tutti. Se siamo da. Io dico, lo so. Guarda un altro Casimir. Ok. I lupi a quanto pensiamo siano da noi? Sentite i loro ulolati più in lontananza, nel senso prima ve li sentivate proprio addosso, qui non stanno, no, adesso non stanno venendo non ululati, uno dietro, uno dietro. Non è là. Non stanno venendo nella vostra ululati. Direzione anche non perché esatto. Ci sono altri nemici nella grotta che ci attendono, come diceva Lex tuo nonno, molti nemici. Chiaramente non si aspetterebbero di, non è qua che vi cercherebbero. Vabbè, allora aspettiamo che passino. No, ma non stanno venendo qua, vi stanno cercando altrove. Beh, quindi, allora scusa, cioè, accampiamoci seri allora, buonanotte. No? Io entrerei nella grotta. Bene, va avanti scemo, vado io. Vabbè, no, io entriamo nella grotta perché sennò non andiamo avanti. Il primo è Garrosh. Poi vado io. Mi serve sapere in che ordine andate. Poi vado io. Vabbè, immagino la velocità di ognuno. Cioè... Potete dire una cosa tipo il personaggio più furtivo va a sperlustrare per primo. Ma, ma noi non abbiamo un ladro vero. Ma l'idea non è di entrare. Ma forse questo... no, forse non vogliamo entrare. Era quello che intendevo. Uno dei principi di Sadis. Andateli a vedere che cosa c'è almeno prima di pensare. Esatto, magari la tana di un mostro. Ma non vogliamo entrare nella grotta? Basta, ma mi serve sapere chi facciamo chi così prima lanciamo scemo dentro, sì, vediamo se fa partire qualche e su questo siamo d'accordo. Dietro scemo c'è lui, dietro di lui io sto circa in mezzo. Grazie. No, vieni dietro di me lui. Beh, io coprirei la ritirata in tu realtà. Sei ultimo, a meno che non voglia coprirla Giulio. Vuoi coprire tu la ritirata? Non sono in condizioni di ricoprirla. Allora la copro io. Bene, stare dietro così se uno scappa lo uccide. Esatto. E poi metterò. Ah, allora quello posso fare. E poi vabbè, quei metterò popolari della esatto. Race e sfortuna. Ma non posso evocare dei. Vi voglio salvare, qua. State dentro. Posso lanciare il proscimmia di sala. Coronavirus. Sì, tu che hai una scimmia comunque. Sì, tra l'altro. È vero, Frank. Ma Frank l'ammazzano di. Non posso evocarci dentro 20 squali. Sì, posso fare quello che vuoi. Ma la scimmia dove? Fai passare il coso. Ma anche Marco ha. Anche Sfortuna ha un famiglio. Ha un top. Non ho capito. Tutti hanno. Se la grotta è grande, posso sparare il mio pipistrello all'interno. Diciamo certo che puoi, basta che mi dici che lo fa. Lo faccio. Perfetto. Evoco Zubat. Anzi, Zubat scelgo te. Zubat scelgo te. Esatto. Va anche Lance. A No, l'ha già ucciso 15 volte. In questo momento non abbiamo l'alcia. Da quant'è che non ti lavi? Il tuo pipistrello entra nella grotta. Uccidete quell'alce! Oh, tipo schermo. In effetti. Pipistrello nella grotta. Cioè, tipo la legione. Amico, amico. Uccidete quell'alce! Tipo se l'alce in realtà che si è brucato tranquillamente. Puoi mettere un VM18 nella grafica un attimo. Che il pipistrello le fauci aperte della testa di lupo hanno un'altezza di 15 piedi. Ah, io pensavo, ecco il diamante allo stato grezzo. E si chiudono mentre puoi toccare tutto. E la grotta è retta da dei pilastri di, naturali di roccia. E dentro la grotta il soffitto si allarga fino all'altezza di 20 piedi. Allarga. E lungo le pareti c'è una linea di supporti di ferro che reggono delle torce accese. Ah, ok, c'è una grotta abitata, non dagli animali. Così c'è una grotta. Esatto, c'erano delle luci che venivano dall'interno. Okay. Ma cosa vuol dire? Già accese? Lui già accese. Ah, minchia. Te le volto, lui ha due pagine e si tagga da solo. Sì. Da qualche parte all'interno si sente uscire il suono molto affievolito di un flauto. Alcune note sono terribilmente stonate in modo doloroso quasi. Non c'è scritto tipo Vez, ma per dare l'idea. E all'entrata c'è poco dopo un bivio. La caverna si divide in due. Riesco a capire la distanza del suono? Tipo se sta suonando uno a... È all'interno, ma è il suo pipistrello, non sei tu. Ah, questo è il suo pipistrello. Sì, avevo capito così. Sì, no? Sì, pensavo che sentissimo anche noi il flauto. Quando vi avvicinerete lo sentirete anche voi. E la cava si divide in due grotte e, ok, c'è un praticamente un po' allarmato lei per questo discorso del coronavirus. C'è una struttura, un piccolo rialzo di 5 piedi. E dal bivio sopra di questi ci sono due donne con un aspetto, il loro aspetto è molto selvaggio e indossano delle pelli lacerate e hanno con sé delle lance dentro la grotta. Sì, poco dopo l'ingresso dalla parte del bivio. Non sono loro che suonano. Il suono arriva dalla grotta di... All'entrata dovrebbe essere quella di sinistra. Io provo, mi metto a controllo la licantropia. Però... Così lo dici, mentre noi stiamo lì a guardarti. Sì, già che me ne stavo dimenticando. Lo sai? No, so che sono stato morso però da lupi mannari. Okay. Poi se vuoi... che so che ho fallito il tiro sulla costituzione, però... Sai che sei stato morso dai lupi mannari, poi il resto sono speculazioni. Cioè, lo sapete anche voi, perché sono evidentemente morso dai lupi mannari, però... Sì, il suono del flauto viene dalla caverna a sinistra rispetto a quando entrate. Bene, questo è quello che vede e sente il tuo pipistrello. Dentro ci sono due donne. Esatto, non avrei saputo dirlo meglio. Piscina e palestra aperta. Le due donne sono brutte e irsute, quindi se al druide interessa accoppiarsi stanotte. Brutte e irsute? E ci hanno visto, quindi. E due? No, perché è un innocente pipistrello che è entrato nella grotta e si guarda. Innocente intorno. Pipistrello zombie, adesso. O no? Nella zombie. Sì, è un pipistrello zombie. Ne so ormai. me l'ero scordata anch'io. E vabbè, è un pipistrellino che va, non è che è un pipistrellino. È un pipistrellino che va e poi nasce l'epidemia. No, a te lo mangi nella zuppa. Te lo scopano anche. Non è mica un pangolino. Dalla fine so se è stabilito. Stabilito che uno ha si è accoppiato con un pangolino e si è pulito con un pipistrello così. A modo dopo. Su e giù. I pangolini siete più grandi. Mandamela questa che la stavo cercando. Pangolini, pangolini. Oddio. Più che altro loro si sniffano le scaglie perché pensano che abbiano proprietà curative, ma visto com'è. Ma è confermato che è dal pangolino? No, loro dicono ai bambini cambia pangolino. Hanno confuso. Bene, alla luce di quello che ha visto il pipistrello, il piano rimane lo stesso? Quindi in totale quanta gente ha visto fino in fondo? No, non è arrivato fino in fondo, più in là si perde il contatto tra. Ah, ok, pensavo che finissero l'estate, ok. No, cioè, non c'è il bivio e poi un bel dungeon. Dici di entrare, le tue sensazioni, tu che hai visto. Tu già, stavi già caricando. Non so, a quanto pare una forza superiore, la provvidenza vuole che entriamo in questa grotta. Ah, ok. Io entrerei. Vabbè, sì, non c'è niente di pericoloso. Una volta che uccidiamo le donne col flauto e prendiamo il controllo della grotta, possiamo saliamo di livello. Possiamo saliamo riposare. Voglio dire, tanto peggio di strade. Ma sono esseri umani comunque. Sì, sono due donne. Sì, sono due donne umane. Vestite come? Come erano vestite? Male. Troppi di pelle. Però stiamo attenti. Brandelli di pelle. Ma erano sane. Streghe. Cioè erano sane, erano ferite, erano... Erano anche belle robuste. Ho smesso insomma... di credere di stare di fronte. Vabbè, dai, ce le dividiamo. Iniziativa. Sai che era pure? Sì, esatto. Facciamo un perception per capire se comincia a credere alle storie di fantasmi e Mistarner. Facciamo iniziativa per chi va con le donne. Dai, perception. No, non essere violento. No, facciamo un perception ci sta più diventare direi il umbilico. Cioè, è un miracolo che io sia vivo in piedi. Vabbè, no, facciamo un perception prima di entrare con l'occhio. 18. 10. 10. Perception 9. 18. Ok, Garrosh e Athanas sentono gli ululati che si allontanano. Ok. Io invece faccio uno stealth. Oh, 7 di stealth. Ok, che cosa fai? No. Sono qui. Oh, okay. Oh, qui non mi troveranno. Ti nascondi nella foresta vestito come Achille. No. Fa così. Na na na na. Na na na na. Na na na na na na. Ma che bella giornata. No. Va bene. Devi metterti in un pangolino. Okay. In pangolino. Ditemi la vostra iniziativa così vediamo in che ordine accadono queste cose. Bom 7 9 15 19 9 anzi 20. Oh, vai. Sfortuna. Quindi il nananana viene prima di tutto. Prima di tutto. Bene. Nananana. Allora, ok. Ci sboccia questo. Bene, passi dietro alle... Sbocciare in faccia alla gente. Ai denti della bocca del lupo. Quello di pietra, ovviamente. E provi furtivo a nasconderti e a farti l'immagine silenziosa per assomigliare ad una roccia. In vano. Ma lui non lo sa. Ah. Ed è ancora più bello. So che tutti noi, compresi lui, hanno percezione passiva 26. Tipo quindi, regà, cosa facciamo? Glielo diciamo? Oh, no, noi lo vediamo che fa. No, così. Raga, dov'è finito Sfortuna? Come coi bimbi? Oh, come si è nascosto? Dove sarà? E quindi tu vedi che però capisci che le due signore si sono accorte di te, però cercano di far vedere che invece di essere rimaste all'oscuro del tuo movimento per... E quindi... falliscono a loro volta. Quindi, esatto. Loro. Cioè, quindi le vedi proprio fare due si accompagna un fallimento di deception che a sua volta è un fallimento è un fallimento continuo e quindi niente la capisci che aspettano che ti avvicini abbastanza per poterti saltare addosso. Tipo, quindi noi in tutto questo quindi siamo lì in mezzo del tipo ma questi che cazzo fanno? Avete finito di giocare? Allora, ai nostri occhi stanno flirtando forse. Potrebbe essere. Ok. Ma sono tipo una mora, una bionda? Sì. Loro fanno questa cosa qui e aspettano che Sfortuna si avvicini. Garrosh, cosa fai? Io vedo palesemente che lui ha tentato di nascondersi, che loro hanno tentato di far vedere che non l'hanno visto. Esatto. Cosa, quelli con 18 cosa hanno visto? Con prima 18 perception. Che gli ululati da fuori si allontanano. Io mi avvicino alle... Vabbè, niente, la strada è libera. Mi avvicino alle signorine, quindi esce allo scoperto. Vabbè, prima di tutto, se posso, dico agli altri: ok, ragazzi, i lupi si sono allontanati. Beh, pensavo l'aveste già fatto prima ancora di salire, ma va bene. Non te l'avevo detto apertamente, quindi non che so. Cosa? L'ho dato per scontato. Vabbè, sia io che tu gli informiamo del fatto che i lupi se ne sono andati. Poi mi avvicino alle donne e dico: è giorno. Com'è? Salve! Pomeriggio. Buon grigio, grigio! Vabbè, salve! Scusate l'intrusione. Stavamo scappando da un branco di lupi. Provo io stavolta come diplomatico. Stiamo. Okay. Questi tentativi, non so. Va bene, loro ti vedono arrivare, vedendo un secondo intruso, urlano intrusi! E una prende un corno di animale. Di qualcosa lo suona e ma aveva preparato l'azione. Sì, ce l'aveva con sé. Scusa, ma all'ingresso non c'è scritto vietato agli intrusi? No, cioè, nel senso che cazzo, stai calmo. Beh, se ti ha visto sei impaurito. Certo. E corrono ancora lì. Anzi, adesso va così. E corrono nella grotta a sinistra. Ok. Bene. Mi giro verso gli altri, tipo, regà, boh. No, toccava prima Dathanas, tra l'altro. Dathanas. Ops. No, a me toccava prima di Garrosh. Hai fatto 19. 20, alla fine. Vabbè, se vuoi, rewindiamo. Spiace. Nessuno suonerà il corno. Vabbè, però non puoi. Cioè, se annulliamo le mie azioni, non puoi fare metagame sapendo che loro non faccio metagame. Quando mai? L'unica persona a cui ho parlato prima di attaccare è stato Kevin. Casimir, ed è scappato. Mi attacchi non lo farò così gratuitamente. No, vabbè, io vi guardo e dico cosa vogliamo fare. E incocco la freccia. Prepari l'azione? Sì. Quindi no, voi potete rispondermi. Scusa, gioco. Queste sembrano delle donne straccione alla fine. Boh, non lo so, cioè mi sembrano tipo cioè, delle, sono solo in due. Delle le barbare che avete incontrato. Preparo l'azione. Allora, io preparo l'azione se fanno qualcosa di. Gli lancio la freccia. Esatto. No. Quindi dopo Shio si avvicina. E lei fa per mettersi il corno alla bocca. Però mi slaccio i pantaloni. No, magari. E io provo a colpirgli il corno. Okay. Ovviamente per intimidire. Provo a colpirgli il collo. Il collo. Il corno. Vabbè, però col collo non soffia più. Va bene anche il collo, tutto sommato. Vediamo, sicuramente quest'altra cosa. Io sono in traiettoria. Giusto per sapere. Ok, no, non sono rialzate rispetto a voi. Carine. No, che un eventuale fumble magari colpiva. No, se pure questa volta va male, significa che faccio bene a prima a fare e poi chiedere. Comunque ho due attacchi. Per il primo, perfettamente. Il primo ho fatto 9. Mm-hmm. E il secondo. Ma se una lezione ne hai una sola, non puoi più. Hai ragione. Ma non è una lezione. Cioè, sì, lui ha preparato l'azione, quindi quando lo usi fuori dal tuo turno usi la tua reazione. Quindi non è un attacco completo. Cioè, il singolo attacco. Anche se non prepara. Beh, 9. Niente. Ah sì, sì. Ding, la freccia si rimbalza contro la parete rocciosa e lei suona il corno e scendono dal rialzo dove stavano e vanno nella grotta alla vostra sinistra. Vabbè, usciamo, la strada è libera. Andiamo a Caressa. Tocca. Bellissima sta storia che ho fatto. Vardistran. Scusa, voglio rivedere la foto qui, la storia che ho fatto. Cosa dico? Bellissimo! Sono venuto in casa. Suoni strani. Va bene, Vardistan. E Giulio ha provato a colpire questo. E a mancare. No, colpire. No. Vabbè, oddio, noi non sappiamo cosa voleva colpire in realtà. Hanno fatto comunque solo in reazione. Ok. Allora io dico: ferme! Avrete la vita salva. Andate via. Non facciamo cose folli. Stiamo tutti calmi. E faccio un persuasion. 13. Non ti sembrano persuasi. E fai altro? Ti muovi? Entri dentro, esci fuori. Ma sono già lì, no? Alla fine. Dove sì, tu sei all'ingresso. Puoi entrare ancora di più. A stare fermo. Loro. Siete rispetto all'ingresso sono 10, 20, 30, 40. Poi c'è un muretto di 5. Poi la. Però è lungo. Ma la caverna vedo che prosegue. Sì, la caverna prosegue. C'è un bivio e loro sono andati a sinistra. E quello più avanti è sfortuna? No, sfortuna è alla fine più o meno dove siete voi adesso. Perché quello più avanti raggiunto. Chi è? Quello, il primo è Garrosh che è entrato dentro e ha detto qualcosa, non mi ricordo. Avevi detto io? Qualcosa quando sei entrato dentro? Ah, io ho detto salve, sì, scusate. Sì, sì. Ah, salve, scusate. Avanzo fino a Garrosh, posso? Sì. O è troppo... No, ho fatto pochi passi. Sì, esatto. Fatto. Quindi, è appena dentro la grotta. Allora però forse è meglio avanzare un po' di più. Si riesce ad arrivare a 30 metri, a 30 da loro? Tu riesci ad arrivare a... Da qui 1, 2, 3 a 20 da loro. 20 forse è un po' troppo. E considera 20 in linea d'aria, appunto. Considera che c'è un muretto tra. Loro sono più in alto di 5 piedi rispetto a voi. Che a un certo punto c'è un gradino. Dai, va bene, vado lì avanti. Poi vedremo cosa. Posso farti una domanda? No. Cioè. Questo corno solo se era particolarmente simile a quello di Kresk per i mongrel? No, è un corno di un animale tipo... Ah, il suono di blu. No, non c'è per niente. Tu sei, facciamo qui, 10. Ok, questo era Vardistran. Patk. Che distanza sono dal tutto? Tu sei il tutto, immagino. Sono, tu sei qua, 1, 2, 3, 4, 5, sono 50 da te. Loro? Sì. Non mi sembrano aggressivi, giusto? Mi hanno visto e si stanno ritirando dentro. Non vi hanno attaccato, ma diciamo che se avessero la possibilità di sicuro non vi abbracceranno. Sceo ha detto salve, loro intrusi, e hanno suonato l'allarme e sono entrati dentro. Fermi. E loro hanno detto intrusi. Ah, ok. E Giulio ha sparato. Giulio ha sparato? Hanno capito che avesse preparato l'azione. Sì, ho sparato. Sì, ho tentato di colpire sparato. Il corno, ma non c'è. L'ho preparata, quando hanno cercato di suonare il corno. Vabbè, io mi avvicino agli altri, davanti. Sì, arrivi fino a Vardistran. Dove va l'istante in proporzione lì? Dove sono io più o meno? 30 piedi davanti a te. Sì, dai, arrivo lì. E dico, vi conviene stare calmi. Assumiamo il controllo della grotta. Va bene. Sì. Hai un intimidire almeno. No, sono serio. Dammi un persuasion. Persuasion. E dopo c'è Race, tre. Giusto? Che bello, bellissimo, ha fatto 3. Però in realtà no, aspetta, perché io ho un meno 1, quindi 2. Ok. Ci teniamo a sottolineare. Se loro sono ancora... cioè, sono entrati nella grotta e non ci sono. Io mi nascondo. Loro sono... stanno scendo, quindi. Va bene. Ma non fai anche tu, na na na na. Ma vediamo adesso. Vediamo. Fa come Gronk. No, oh, buh, volevamo un 7. Okay. No, così erano tutti e due lì a fare. No, no, no, no. Posso fare 7, ho più 11. Perché usa il carisma, ci vede. Ok, sta a loro. Comunque è questo secondo me il level up. Sì, Race era l'ultimo. Cioè siamo nel level up. No. Che vedi che posso farcela? Vedi che siete saliti di livello, allora cosa mi manca? Fa un culo, cazzo. Questo ci sta, ma... Vedi che posso fare tipo creare obiettivi e potrei dirgli tipo, ehi, donateci un altro, un'altra beh, ora di trasmissione, no. Se arriviamo a 30 euro. No, io, dai, io scriverei che al gruppo... Tanto lo facciamo comunque, ma allora no, non so. No. Scommetto che qualcuno sarà particolarmente d'accordo. Secondo me puoi scrivere che come obiettivo è comprare un computer nuovo per migliorare la qualità. Ma se lo compra lui col suo chi? Non è con questo atteggiamento, Salla, che faremo dei soldi. Che farò dei soldi. Che cosa? Buoni. Dov'è che si spegne qua? Abbiamo sbagliato noi, dobbiamo dargli malvagi, non i buoni. Basta. Di solito era l'aso. Esatto. C'eravamo liberati di questa presenza. Ci manca un po', eh? Esatto. Dai. Era per commemorarlo. Oddio. A caldo, scusami, prego. Si emoziona quando sta per ucciderci. Esatto. Dai, uccidiamo queste donne. Comunque hai preso la stanza con due letti singoli o con due letti matrimoniali? Non era così importante da quello che mi avevi fatto capire. No, chiaramente no. Però due letti matrimoniali ci sta più cibo. No, comunque sono due letti singoli, direi. 20. Loro fanno 30. Ok, li vedete che entrano ancora più dentro alla grotta. Che orario hai scelto? Di mezzo. Non ho scelto niente, sono già di Ryan, partiamo la sera. A che giorni andate? Hai scelto tu. Non è che tu hai scritto compriamo un volo e lo dico. Ah, ci sei cascato alle 4 di notte. Uno al giorno, nel senso. Capito, sfortuna, che cosa fai? La sera di che ora? Dall'1 al 5. I tuoi alleati sembra che stiano cercando di parlarci, a parte quello che gli ha scoccato una freccia. Ah, per parlarci. Ok. Beh, allora, se non avrei sparate due. Continuo a muovermi da roccia verso l'interno. No. Ok. Partiamo alle 18:10. E torniamo alle 8:50. La partenza è alle 8:55 di mattina. Va bene, arrivi di fianco a Vardistran. Ma tempo a fare colazione. Ma quando so c'è in tempo? Sì. Sveglia alle 5. Tempo a finire tutto il buffet. Vardi, strano, una roccia spunta di fianco a te. Vabbè, ma capisco che una roccia continua di prima. Sì, sì, capisci che è lui. Senti, no, no, no. Atanas. Non pensavo sarei morto di fianco a una roccia. Vado di fianco a Garrosh e gli sparo. Cosa? A Garrosh. No, non gli sparo. Non ancora. Non ancora. Ma... Questo mio personaggio. No, questo mio personaggio non ha ancora fatto mai nulla contro gli altri. Direttamente. Esatto. Allora. Quindi di fatto facciamo sabato, domenica e lunedì. Loro stanno. Cioè, si stanno allontanando in quella direzione. Hanno tornato. Boh, cioè, parlarci è inutile. Posso provare innanzitutto un perception per sentire se dopo il loro suono di corno si muove qualcosa, sì, in qualche direzione. Perché il quinto non conta. E ho fatto un 7. Ok. Sento il tananana. Senti il tananana e il rumore del flauto. Ok, che è della direzione opposta di dove sono andate loro? No, è della direzione in cui sono andate loro. Allora vado. Preparo un'altra azione, se vedo qualcosa venire verso di me. Ok, di quanto ti muovi? Tutto il tuo movimento? Un mio movimento. Uno? 35. Non so, ho fatto per eccezione, non so se è gratuito o meno. No, action, perception. Ah, sì, è il movimento. Ok, sono quindi 35. 35. Esatto. Arrivi qua. Vedo qualcosa 35. In più? 5. Qui, Garrosh. Allora, 45. 10. 20, ah, il mongrel che suona 30, la bazzia, siamo sicuri che era 40. Arrivi. Suonava un violino comunque. Ah, è vero, non è fatto, era il violino. Magari è cambiato. Arrivi. Già non era bravo col violino. Il gradino da dove e dove poi si diramano, i due, okay. I due rami. Alla tua destra vedi, continuano da entrambe le parti le torce lungo i muri. Mm-hmm. E alla tua destra vedi che in fondo, dopo una cinquantina di piedi, c'è uno specchio d'acqua. Alla tua sinistra vedi che c'è uno slargo, la colonna si la grotta si allarga e vedi un umano con quel tipo che suona il flauto, è un vecchio sostanzialmente, e intorno a lui, appunto, come dire, cullati da questo suono, ci sono 9 lupi. Ma mi dico io questi lupi, catta? 9 lupi come? Normali? Mi sembrano normalissimi. Normali. Lupi. Le donne? E non le vedi. Altro da dove sei tu? Cioè la stanza è una grotta vuota, diciamo. E poi più in là vedi... Sfortuna, sigilla tutto. Ombre e luci che proseguono, okay, nelle profondità. Ci sono delle altre buche e degli altri cunicoli che vanno ancora più in profondità. Posso parlare? Rivolgergli la parola. Lui è andato avanti, è arrivato dove c'è il tizio che suona. E puoi dirgli due parole con gli ultimi secondi del tuo turno. No, puoi anche tu fare. No, tipo aiutaci, il nostro compagno è ferito e siamo inseguiti dai lupi. Che ironia. Disse 9 lupi. Appunto, lui comanda dei lupi, magari ci aiuta. A chi tocca? L'idea può essere quella. Indovino. E no, dopo quindi... Garrosh c'è Guardistran. Per ora nessuno ci ha attaccato. Arci non ha fatto prima. Cosa hai fatto, sì, prima? Ho camminato, ho detto vi conviene stare calmi e suonare il controllo della quindi grotta. Hanno suonato il corno, ah, sì, giusto? Hanno suonato il corno, sì. E lui vede il tizio che suona il flauto. Per il momento però nessuno è apparso, oh, e nessuno ci ha attaccato. No, si sono ritirati quando vi hanno visto. Madonna, stesso giorno pioggia di lupi. Io ho provato a dire al tipo aiutaci, abbiamo bisogno, sono inseriti dai lupi, il nostro compagno è ferito. Non hai ricevuto risposta? E arrivo all'altezza del muretto. E vado in copertura. Sì. Vedi quello che ha visto lui. I due rami, lo specchio d'acqua e il tizio che suona il flauto, circondato dai suoi lupi. Esatto. E qui che cosa c'è? Allora fai altre cose? Sì, dico quindi sono abbastanza vicino, tutto sommato, non così, al flautista. Il flauto è di Electrum, flauto metallico. Traverso. Oh, flauto metallo. Allora gli dico... Ci sei? Ci sei, musico? Parla. Il vecchio dice, quando Kirill tornerà? Vi scuoierà vivi. Ah, cazzo. Chi è questo chi? Giusto, tu non lo sai. Lo sai, sì, no, lo io sai, ho detto. Detto. Lo sai chi è Kirill. Chi è? Era il loro capo. Il loro capo da cui ha mangiato il cuore. Ah, aspetta. Era un lupo mannaro. Era un lupo mannaro. Vabbè, ti dice quando tornerà, tu gli puoi tranquillamente. Puoi dire. Secondo me non torna, però. È vero, c'è caso che ci sia coso, che ci sia Pippo stupido. Wolf Pip, dipende. Chissà se o forse là fuori ancora a cercare. O forse è tornato, chi lo sa. E questo era a, questo era Vardistran 9. Pac. Vabbè, quindi sono lui prima andare. L'attacco. Beh, in realtà lui ha detto quando tornerà. Quanta vista dai? La tua vista. Sì, ma non è che vi scuoierà e intanto ci lasciano fare quello che ci pare. No, però potevi. Potremmo intimidirlo dicendo che oh, dei mostri là. Usa semplicemente la logica. No, che il manuale dei mostri, per favore. Penso che questo qui non può tornare. Non posso farci le sbaglio. C'è la maschera nell'orecchio. 10, 20, 30. Sto parlando. 90, 100, io ho sentito. 60, 70. Avete sentito tutti. Io scoppio a ridere. È a 70 piedi da te. Circondato. Chi? Il flautista? Aspetta. Mi hai chiesto lui il flauto. Oh! Il flauto. Sfortuna, palla di fuoco. Quello che faccio non è. Non è la tua giurisdizione. Sono una roccia. Roccia, palla di fuoco. Ci non fanno palla di fuoco. Lui non fa cose utili, credo dovreste averlo capito. Lui dice agli elfi che deve rassicurare. Usa diplomazia un po', dai. Basta questa diplomazia. Qual era? Disse il paladino. Vabbè. Qua sì. È il paladino della vendetta, dai. Meglio di te. Sì, è vero. Cosa cerchi? Pensando cosa diventare. Tanto dopo Pat c'è Race. Vai Race. Vabbè, io mi casto catta. Pelle coriacea. 9, 7, 15. Salati. Pelle coriacea. Ma mi sa che sono lontanissimo io. E mi trasformo. Che tanto la sua bomba. Però aspetta, nelle logiche del branco io ho ucciso il loro capo, quindi adesso sono io il loro capo. E quello che dicevo, secondo me, tu potresti intimidirli dicendogli quello che hai fatto. Era quello che intendevo. Cioè lui ti ha detto, ah, oh, quando tornerà... io sono indietro. Sì, sì, quando arrivi dico, puoi ridergli in faccia e dire, ma veramente il suo cuore era buono. Poi. Mi trasformo in un orso polare. Quindi finiscono i piani di come si dice? No, vabbè. No, ci sta. Li vogliamo intimidire. Vabbè, perciò, vediamo vabbè, che sta. Cosa fa lui. Sta. In un bacio così sì. Un orso polare. Yogi del nonno. Vabbè, tanto ha lo stesso carisma. Winnie the Pooh albino. Va bene. Questo era Patk. Sì. Ok, Race. Tu sei super nascosto. Ah no, sto anche azione di movimento io. È anche un'azione di movimento. Mi muovo avanti di 40 piedi. Anzi, okay. Swim 30 piedi. No, di 30. Mi muovo di. Tipo 35. Dove cazzo sei? Pac. Lui è 70 da me. Vabbè, puoi arrivare al muretto dove siamo tutti praticamente. Sì, no? Dai, vado di... La distanza tra Sceo e il tizio, quant'è? Allora, un attimo. Tu. Lui è 70 da comunque una, 3. Una semplice griglia. 4, no. 5, 6. Speravo di. È l'unica che non va stampata. Porca troia. Che ironia. Già. E noi non volevamo neanche entrare in questa cazzo di grotta. Il destino direi che ha detto molte cose. Però. Da lui è a 50. Allora io mi avvicino, vado a mettermi più o meno a 40 da, piedi. Da lui? No, veramente no, io da non sto solo. Siete voi che mi avete lanciato dentro. Ah, ok. No, era l'unica cosa che potevamo fare in quel momento, entrare nella grotta. Sembrava un po' stile. 50, sì, giusto. Non è 70, era grotta. Da quando hai iniziato il turno. È lì che tu avevi. Esatto, vado avanti di... Punto dice, chi è che entra nella grotta? Senza che nessuno avesse detto che è stato. Quindi a 40. Raga, mi dovete dire il primo che entra. Passo. Passo. Dopo parte Race. Allora mi muovo e mi rinascondo. Ti muovi, ti rinascondi. Dove sta loro? Non esattamente dove sono loro, ma un po' più. Sotto un lupo. Ti puoi nascondere dove si è nascosto anche io. Garrosh e Vardistan. Dove stanno loro? Una non sono nascosti Garrosh. Lui sì, perché è più basso del. Io ho parlato con il tipo che non mi ha neanche visto. Io sono la roccia. Dai, steltati. Lui è nascosto perché è un nano. Io sono nascosto perché. Oh, piango le parole. 23. Io sono Yao. Bene, Pat, questo eri tu. Race ha fatto. Questa era Race. Bene. Lui comincia a suonare una Nennia incalzante e molto ritmata, e i lupi vi corrono addosso. Quindi sono lupi fuori, lupi dentro. Lupi no, quelli fuori sono andati di qua, lupi di là. Si avventano sull'orso perché è più appetitoso di tutti. Barskin è resistente per le coriacee. E per le coriacee è quello che mi dà il 16 di CA, indipendentemente da qualsiasi cosa sia. Giù, va bene. La classe armatura dell'orso? 16. Tanto, giusto. 12. Evita 16 di CA qualunque cosa che diventi. Ah, interessante. La creatura dell'orso. Infatti, dell'orso, non la tua. Beh, per curiosità, quanto sarebbe? 12. Ah, cazzo, non è differente. Allora, ci sono 9 tipi che ti arrivano addosso. Il primo attacca normalmente e ti colpisce. Mi colpisce? Non fa una biga. Dato un aspetta, mi sa che si becca. Ah, no, è vero. Quanto hai da orso? 16. No, di vita. 42. No, quello su quello. Cosa? La risposta è 16. 42 HP, 16 di CA. Sono poco. 40, ho 40 piedi e ho 30 piscine. 40 HP. 42 HP. Sono pochissimi. Sì. Perché non sai che li trasformano in qualcosa di più grosso? Perché questo fa più male. Visto che nessuno picchia. Però 40.000 forme animali, 2 metamorfosi, 97 HP di base, cioè. Però magari questi sono solo lupi, sono i loro compagni animali. Cioè, cosa fai? Stai sottovalutando il nostro paladino? Non avete terminato. Il master ha riso a questa cosa, cioè, Vez è FK che no, vabbè, Vez in realtà hai punire, forse. Sai punire qualcuno. Genitore 1, genitore 2, 2 da 1. Allora, uno, il lupo. Primo lupo fanno 2 di 4 più 2, vabbè, 7 danni. Vabbè, prova 15. Di forza. Per sbilanciare. Per sbilanciare. Ah no, io devo tirarla. Sì? Sì, dai. Dai che... CD11. L'orso 4. Giù. L'orso fanno giù. L'orso 5 dove? Sì. Cioè, immagino di sì, devo usare solamente... La forza. Sempre più sì, CD 11 sulla forza. Vabbè, comunque non hai un più 9, sì. Ok. No, ho comunque 4 di dado. Ha fatto 4 di dado. Sono matematica, ma non hanno opinione. E non lo è. Quindi il nostro orso polare. Come fa l'orso a essere sbilanciato da qua? No, non c'è scritto che devo essere della stessa taglia, se lo sono dimenticati, quindi evidentemente i lupi possono sbilanciare anche un drago. Quando trovo una palla, beh, lo potete fare anche voi. Sì, anzi, di sicuro ne approfitterete di questa cosa. Altri lupi. Il secondo ti manca. Ma non ha vantaggio lui trova, se mi trovi la paccia. Com'è che si chiama l'abilità? Il bite, il morso. Hanno vantaggio per te. E hanno, avrebbero comunque vantaggio perché sono le tattiche di gruppo. Esatto, sono altri 8 danni all'orso. E ne mancano altri 6. Hanno qualche resistenza. 6, 4 più 2, 6 danni all'orso. Perché è solo l'orso? Sì, perché è più appetitoso. Non volevo distrarre. Questi 6 sono i primi dopo gli altri 7. Sì. No, credo che ci sia stato con non tirano sotto il 15. Sono 9. Hai colpito? Non lo so, io ho sentito che un altro. Però questo manca. 2 hanno missato. Dice che non può essere più di una taglia di differenza. Ha! Stupida cimice. Cosa? Sono 4 danni. Quanto? 4. Puoi fare anche la Tetris, però. Sì, è questo è il penultimo, che sono 7 danni. E questo è l'ultimo. Minchia, che cazzo di tiro fa? Sono altri 8 danni. Hai già giù praticamente. Questi sono 6 a 1. Vabbè, però hai subito tutto un turno loro. Sfortuna. Ovviamente non l'abbiamo subito noi. Sì, esatto, lo stavo per dire io. Tutti e 9 sull'orso. Sì. Ah, sono 9 lupi? Sì. Ah, minchia, ho preso 5. Mi sembrava strano. È rimasto uno, il nostro orso polare. Però vabbè, scusa, siamo uno sopra l'altro. Ne ha poi 97 da druido. Esatto, non ho fatto a circondarmi 9 lupi. Sei grande. Sei grande, grande, quindi, grande. Rega. Quindi intorno a te ci sono. Se tu hai una base di 4 sì, ma se sono vicino a loro, ce l'hanno fatta. Se sono vicino a scena, sì, ma hai presente? Cioè, poi ti saltano sopra gli altri. Ma loro fanno le mosse per cui uno mette una gamba sotto l'altro, il muso incastrato. Mi ricorda molto quando provavamo a farlo noi. Ah, no, però sono una bella. Allora, in realtà, scusa, se ci sono 40 metri, uno interno, no, io c'ho di fianco a me, Sceo. Alternati, questo è chiaro. Se loro fanno il giro per circondarmi, si prendono dei gran schiaffi. Sì, sì. No, perché non escono dalla tua area di minaccia, no. Dalla sua, ma dalla mia? Esatto. Non escono dalla tua, tu sei dietro. No, guarda, tutte quelle non vedo l'ora di pugnalarlo. Questo per quello. Madonna, riuscire che stiamo riuscendo a colpirti tutti. Esatto, bravo. Beh, sfortuna il tuo momento. Buon inizio sessione, Cesare. Mi chiamo Cesare. Ah no? Cesare. Sfortuna. Tu li vedi. Ghiaio Giulio Cesare. Per me è il momento per una palla di fuoco sui lupi. Vedete che da non c'è una palla di fuoco. Sparala, sparala. Sui lupi, quindi. No, ti sei fatto così. Pez, come si chiama? Il retire da Giulio. Come si chiama il cognome? Sì, ma ne dovete farla prima. No, lui gli aveva detto palla prima. No, aspetta che sia vicino al gruppo. Capito? 29, 10, 15. Prima faccio finta di nascondermi, poi quando posso colpire gli amici. Ah, perché non l'ha fatta prima? A me però mi becca. In virtù di? Sei proprio in virtù del fatto. È probabilmente puntata su di te. No, sì. In caso sarà adesso, però noi siamo attaccati a lui. Vedrai che ora però becca anche Vez, l'Ardistan e Giulio. Esatto. No, io sono molto dietro. No, anch'io ero molto dietro. No, io non sto vedendo la scena, io non vedo i lupi. Non sono arrivato. Sì, sì. Tu Bez dai delle bazze e tiri salvezza. Sì. Se sei in 2, 3. 10. Vabbè, ma che ragione faccio? Diametro. Quindi. Allora passo. Passo. Non ti piace. 5. Ha fatto la prima quando erano lontano. 5 superano e gli altri no. 4 no. Anch'io supero. Ma colpisce tutti. Colpisce l'orso e i lupi. Ah, torniamo. Beh, 6 a 10. No, ma non c'è. C'è, sì, c'è il trasalvezza sulla palla di fuoco. Certo. Quanti danni erano? Di mezzo io. E 29. Hai un più 3 se sei a 10 piedi da me. A 10 piedi da me? Che diviso 2 fa? 5. Cosa? 5. No, stavo chiedendo. Quindi sarebbero 14 danni. Segati i lupi. Ah, hai già. Fa la variante orso delle caverne. Segate tutti i lupi. Sì. Ah, non so, ma 12 di vita. No, dai, sono scuro e ho scuro visione. Minchia. Bene, uccidiamo un soffautista. Questo era sfortuna. Stessa statistica. Però era figo. Sì. Allora si capta, invece un orso polare sono un orso delle caverne, è uguale. Va bene. Ma a 200 HP! No, è identico, però, visto che sono nelle caverne. No, ma solamente è scuro. Atanas, è negro. E... Vabbè, adesso sei un nano comunque. Sono nano. Delle camere scuro Atanas negro scuro. Io avanzo, quindi adesso c'è il flautista, sì. Il cumulo di cenere nei lupi e basta. E io così vedi. Non vedi altro. Perché starnutisci nel io mondo. Faccio. Ah cazzo, non sarebbe stato utile portarsi dietro la testa di Kirill. Però sì. Kirill non tornerà. Ora okay. Sono io il tuo nuovo capo. Uccidi quell'orso! In ginocchio! Non sono più un orso. Che cos'è lui? Boh. Due ginocchia. Vabbè, non importa, lui si tramuta nella sua forma ibrida di lupo mannaro. Dedica. Ma allora, anche tu? Ci provo. Vedi che gli mancano dei denti, ha tutto il pelo grigio strappato, mezzo pelato, non so come si dice, mezzo spelacchiato. Beh, sei già come trasformato in un cane, parlo di l'uomo. Sei già stato cane. Morirei piuttosto che servire sotto un essere inferiore come te. Questo essere inferiore ha ammazzato Kirill però, da solo. Fandonie. Puoi chiederlo, come si chiamava gli altri? Ah, People. People, fra Gnarl. Gnarl! Oh, ma anche lui è morto! Però è rimasto People Wolf. Village Peep Wolf? No, Village Wolf. Però è rimasto Peep Wolf. Lui è scappato dopo che io ho mangiato il cuore del caro Kirill davanti. Giveva come una puttana mentre la violentava. Esatto. Sai il... Ah, vabbè, se non può capire perché non è il gladiatore. Intimidire con vantaggio. Ah, Vezza, cosa facciamo prima sera a Copenaghen? Guardiamo il gladiatore con il mio iPhone. Mangiamo, prendiamo un po' di colazione. Ma c'è colazione, cioè. Sul carisma, ma sì, perché sto parlando. Colazione avanzata. Ok. Tra l'altro sono ancora una maschera di sangue. Lui ti ringhia contro e ti dice: ti strapperò. Sì, si può farlo. Va bene. Non può parlare la scena da lupo. Non riesce ad intimidirlo, è stoico lui. Se non hai altro, Garrosh. Ammazzalo! Si carico. Ah, ma tu hai le armi quelle per della, della Playmobil? Io non cazzo. Vabbè, era lo stesso, cosa devo fare? Peepwolf. Abbiamo già... me l'avevi fatto vedere. Però io so che non gli faccio niente, io so che non gli faccio niente con le mie armi. Ti è già successo di attaccare lì canto al proposito. Sì, sì, sì, l'abbiamo già fatti. Vabbè, lo puoi bloccare. Lo prendo in lotta. Immune. Prova a prenderlo in lotta. Sì. Ho vantaggio? In virtù di? Beh, perché no? Beh, ragione, non avevo considerato perché è vecchio. Questo. Devi insegnarmi a farle meglio. Perché è vecchio. Perché è vecchio. Faccio solo i danni magici. Sì. Quindi faccio un athletics. Mm-hmm. Sei pronto? Sì. Ti faccio un bel 9. E considera il mio più 7. Grazie di me, matto. Niente, 9. Vai, no. Magari fa peggio di me. Mai dire mai, un tiro contrapposto. Tira un 1. Oppure no. La situazione rimane invariata, non lo prendi in lotta. Però un'altra azione. Hai un altro attacco, dai, due attacchi, sì. Posso riprovarci? Puoi riprovarci. 1. 18. Andrà meglio per forza, cioè o fai uno o... Non hai preso il lotto. Ne ho fatti due. Ah, boscevo. Okay. E ora? È solo l'azione di movimento, me lo porto via. Dai Vez, puniscilo. L'ho preso in lotta, vai Vez con la tua sciamana. Se amico. Vuoi puoi prendere la mia spada. Tranquillo Vez, usa il simbolo sacro e fa... Se vieni a chiedermela te la do. Ma non vieni tu a ammazzare. Pur di non combattere io ti... No, e siamo no, di fianco, no, sta prima lui. Io sono messo molto peggio. Eh? Tiro via il flauto. Giulio, ignora. Cioè non so se vale la pena sprecare un punire. Cosa vuoi? Si finisce a pane, spada? Acqua e argento. Normale. Spada corta. Spada corta. Sì. Vabbè, di 6 più di 6. Però lei se no incantesimi per fare i danni. In qualche modo. Prezzo ti smite del paladino? Sì, infatti userò lo smite se colpisco. Tiro con vantaggio, no? Col fatto che è in flotta. No, col fatto che è in lotta no. Semplicemente no, il movimento, movimento zero. Vabbè. Anzi, forse svantaggio. No, svantaggio. 23. Colpito, minchia. Tiro solo lo smite. No. Sta a sentire. Certo. Ne paghi uno, non ha una cosa per far diventare magico un'arma. Ne ha un incantesimo. Di secondo, mi sembra. Che tu hai preparato. Ti ricordi che hai detto che lo preparavi? Io me lo ricordo. Ah, sì, ce l'ho. Magic Weapon. Non sei imbecille, ragazzi. Non sai gli incantesimi che hai? Li usavo all'inizio, però poi dopo mi avete detto che erano inutili, e in effetti erano inutili. Perché avevi un'arma magica prima di lanciarla nel bunker. Aspetta. Insieme al tuo fuoco. Poi ti hai detto un'arma magica, un simbolo sacro. Però sarà un turno. Che bel ponte. Una bonus. Ah, questo mi sta che controlla che non ti serva il touch. Verbale somatica. Verbale somatica. You touch a non magical weapon, non ti dà esperienza. Diventa un'arma magica con un bonus di 1 all'attacco e ai danni. Tuttavia sarà sicuramente con la M che non ho. No, verbale somatica. Normale. Allora sì, lo faccio. Bonus. Lui tanto ha un'arma a due mani. Dura fino a un'ora. Concentrazione. Vabbè, intanto quello colpisco. Se lo casti di quarto livello è un +2 il bonus. Ma non è il nostro caso. Non ci arriverò mai. Non so. Non ci arriverai mai prima della fine della campagna. Dopo invece. Non so il paladino, la progressione degli incantesimi. Posso usare anche lo smite normale? Sì. Allora facciamo. Attenzione, Vezzo, che scopre come funziona il paladino. Solamente livello 8. Vabbè, sono le prime sessioni. Un giorno prima della fine della campagna. Sono le prime sessioni. Vabbè, non c'era posto. Vabbè, gli è capitata una campagna che è impossibile. Giocare il paladino da paladino. Dopo che paladino sarà finita, avrai imparato a usarlo. Beh, scusate, lo sto facendo giusto. Cazzo, ah, bravo, dai. No, fanculo, il 2 lo ritiro. Porca cazzo. Non è diventato un 1. Per sfregio, fagli vedere. 16, 23 danni. È stato il +1 dell'arma. +1, 24, bravo Giulio. Quindi è morto con quegli 1 in più. Secondo attacco però. Che è un 18. Hai contato il +1? +1 anche a colpire, vero? Sì. 19. Non smaitare con 19 basta. Perché dici che l'ammazziamo, no? Vabbè, che magari dopo ci servono altri smite. Sì. Ma io se mi colpisce lo perdo la magic weapon, quindi tanto vale che lo usi adesso. Magari colpisce il tema in lotta con lui. Sì, ok, però solo voi due potete fargli danni. E lui. Ah no, anche lui. Uso lo smite, dai, completo. Vieni, posso fargli male dalla randella? Tanto finito questo, facciamo un riposo. Noi, cioè... Ci sono le due che non sappiamo dove sono. Chiediamo a lui smovimento... Smovimento. Terra e facciamo murare una stanza qua dentro, cazzo. No, mura... Cioè, ci mura dentro. Sì, esatto. Assolutamente sì. Movimento terra. Sarà anche della terra, Marco. Vai, usiamo l'ultimo smite. Comincia a prendere il piccone. Oh! Non può essere peggio, non può essere peggio! Ha fatto uno, poi due. Sì, l'unica persona felice. Però 2-8 con il mio 4, 26, 31 e 32. La tua arma carica di energia divina si batte su di lui. L'avevo già colpito. È talmente forte. C'è un'interferenza in quell'esatto momento, va via la magia. Peccato che fosse due quadretti di distanza, se non hai colpito il vuoto. Devo mettere dei segni più resistenti, grazie un po'. E lo tagli a metà. Oh, buoni, vaffanculo. Oh. Presto, usiamo la magic weapon, po' finché c'è. Esattamente. Vabbè, uno, finito tutto, rega. Tutto finito. Poi sei Vardistran qua. E questo è perché non è voluto servire a Giulio, un padrone giusto. Sarei stato un padrone giusto. E il mio schiena. Giulio gli mangia il cuore. Tanto ormai. Dai cunicoli che si aprono davanti a qualche metro di fronte a voi, qualche in alto, sotto i vostri piedi, spuntano fuori 46. No, erano le due che avevate visto prima e altre due che non avevate visto, che no, di vostra nuova conoscenza. Quindi sono 8. Quindi vi si lanciano contro e mentre sono in aria si trasformano. Riprovo a rifare la stessa cosa. Inchinatevi, io ho ucciso Kirin. Ah, perfetto, grazie, con l'arma magica. Sono altri lupi. 4. Cazzo. Beh, vengo col ne sciogli uno a round. Sì, con gli smite. Sì, smite, sono 50 danni. Porca. Interagire con un oggetto. Un'azione a che distanza sono loro da me? No, più o meno. E io da loro? Che non si sa mai. Distanza di carica. Loro ti possono colpire. Arci, distanza di carica. Vai, uccidi Arci. Aspetta, dobbiamo fare due domande tattiche. I miei quadretti intorno a me. Intorno a me. Pieni di creature. Gente che. Schizzato su. Diventa lupo. Sono, eh? Tra l'altro tu stai tenendo un cadavere smembrato. Che era quello che gli ho chiesto in interazione. Oh, sì, ho capito. Che... Vabbè, tu se lascialo cadere vai a prendere prima. Dove eri prima? Sì. Quindi loro sono lì. Se almeno ce ne cavi uno. 10. Vabbè, è l'unica cosa che posso fare. 30. Tanto tu poi ti metti ira, 40. Sei okay. Di mezzi. Sì, se vedo che cominciano a colpirmi va di via. Divento. Perché non sono tanto non ci riposiamo dopo, vero? Siamo dovevate già riposarvi. Sono tre giorni. Questa è la quarta sessione in cui lo diciamo. Divento un orso polare. No, delle caverne. Ah, delle caverne, negro. Ma può fare danni di darci. Qual era? Non ha avuto. Sì, la forma. Sì, che prima in un turno l'hanno sbalzolato. E vedo fino a 60 piedi di scuro visione. Quindi se vedo cose strane, dimmelo. Va bene. Commezzo nel bonus. Poi l'attacco, charge e carico il lupo. C'è una fessura a forma di zoccolo di gnomo. come dire? 8. Ma ecco. Hai mai fatto? Più 7. Sì, ma è fumble. 18. 18, dai. Non dire. Sì, ma uno è fumble. È fallito a colpire uno. Sì. No, è 8. Ah, no. Perché voi fate quello è fallito al, quello è al colente critico, sì, esatto. Uno è fallito. Ah, ok. Hai le prove che... Allora 18 invece? Colpisce. Basta. Faccio 2 di 6 più 5. Ok, in caso. Danni. 6 più 5, 17. 16. Beh, 16 però. Spero. Non male. È morto? No. Qua spero. E poi... passo. Allora... quindi questo era... domanda, i lupi mannari si possono danneggiare tra di loro? È un'ottima domanda e mi ha tenuto sveglio la notte. Perché tecnicamente si possono danneggiare tra di loro? Tecnicamente sì. Tecnicamente si colpirebbero all'infinito senza farsi nulla, il che tu dici, ma ci sono alcune cose che non avrebbero senso, quindi come house rule direi che tra mannari la maledizione non funziona. Quindi se io uso... Quindi se tu diventi un mannaro puoi danneggiare o essere danneggiato. Ma se anche uso... Mannaro. Che cosa? Che ne so, i denti di un mannaro. No, è avere la maledizione. Che ce l'ha la maledizione, è morto ma ce l'ha comunque la maledizione. Beh, i mannari più ricchi si fanno d'argento. Però effettivamente ritornano umani quando muoiono. Tipo. Non mi ricordo, però è, cioè, anche se tu avessi un... una mazza piena di denti di lupo. Ma una, se tu hai la maledizione e hai una mazza normale. Beh, adesso. Ah. È una cosa. È una cosa magica. Beh, quindi okay. Dipende. Beh, io non so di averla, però. Tu non sai di averla. No, ho fatto la domanda per usare i resti di un lupo mannaro contro un lupo mannaro. E soprattutto non si è ancora manifestata, quindi non benefici purtroppo ancora. Mm. Del... Beh, adesso hai la spada per d'argento. Sì, va bene, per ora. Perché per sì, ora, ha detto. Altrimenti ci sono. Detto per ora. No, non ho detto per ora. Me la fondo, mi taglio una mano, me la fondo. No, ho detto perché altrimenti alcune cose non avrebbero proprio senso. Perché sì, ci avrebbero due cose che si cozzano tra di loro senza farsi nulla. Ma infatti i mannari qui sono tutti amici tra di loro. No. Sì, ma per stabilire chi è il capo dovranno lottare. Uno. Sì, perché comunque i lupi benestanti si fanno i denti d'argento. E hanno i catenoni che esatto. Girano. West Coast! perché e chi ha più catenoni è... La Werf Coast. Vabbè, Werf Coast. Abbiamo degenerato ufficialmente. Race, che cosa fai? La toccata. Senti, si è tirato una sniffata prima in bagno. Sei carichissimo. Sì, tra poco devo tornarci. Scusa, Race. Hai lasciato delle sostanze in bagno. Questa campagna è palesemente fatta apposta per farmi fare da contorno. Te non è che fai poi tutto questo. Un po' mi dispiace, ma. Infatti aspettavo entrassi tu per primo e non so, facessi cose, invece... Ma sei un arcane trickster? Ma scusa, trickster non... Scusa, ma trasformati in qualcuno e usa il carisma. Che fanno danno, faccio sonno ma addormento voi che avete due Scusa, allora, dice, trasformati in qualcuno e usa il carisma. Scusa, vai in mezzo, eh? Prendo il flauto e lo inizio a suonare. Non è che è Arcane triste? Fammi una performance. È Arcane triste. Cerco di imitare la canzoncina di merda che suonava lui. Va bene. Con anche le stonature. Era molto, infatti è difficilissimo farlo con svantaggio. No, davvero? Eh sì, è difficile suonare male apposta. No, è facile se tu me lo dai. Suonare male esattamente come okay, suonare. Ok, quello è difficile. Che cos'è intrattenere? Performance. Sì. Beh, sarà se non ci riesci te. Beh dai, buono. Con svantaggio? So c'è che tiro hai fatto. Ma mica solo te, ti via. Non è che... Ok, questo suono estremamente fastidioso comincia a riecheggiare per la grotta. Non è sufficientemente fastidioso da impedire il normale svolgimento delle azioni dei tuoi amici o nemici, chiunque essi siano. Crea solo fastidio. Fa sottofondo, è sottofondo. È il lamento dell'Arcane Triste. Bella questa. Non posso far nulla. Com'è che aspetta c'era? Il lamento dell'Arcane Triste. Vai, tocca a loro. Allora, quella che hai morso, Arci, ti rende pan per focaccia. E spero non so tu se non sia celiaco. Una sessione carta mi ha dato un inspiration perché io non ho fatto altro che attaccare uno senza fare danno per tutta la sessione. Non me la ricordavo questa. Non è facile. Allora, uno col morso e uno con l'artiglio. Usa il carisma. No, l'hai perso. No, non è solo concentrazione. Va bene, quindi devi usare il carisma. Usa il carisma. Ti colpisce con gli artigli e ti fa 7 danni. E questo era quello su Arci. Allora, ma Arci non ha dovuto fare nessun... Ha detto che non è a concentrazione. No, sembra che non sia controllo. No, prima non l'hanno beccato col morso, mai. Era un rupi normale, scusa. 7 danni. Volevo altri compagni mannari. Per il tuo orario. Molto bene. Garrosh, la seconda va su di te. Oh. Classe armatura 19, non sono ancora in ira. Ok, quindi ti colpisce solo con gli artigli, 7 danni. Sono di nuovo a 42 io, capito l'orso, sì. E poi gli altri due su Vardistran, perché ha ucciso il loro povero amico e quindi lo vogliono vendicare. Giusto, perché hai fatto un turnone. Il problema per me è la concentrazione, perché l'arma, ma allora primo ti colpisce solo con l'artiglio, 7 danni. E devo tirare, aspetta, concentrazione. 10 o più. È danno fisso. Vero, questo sì, sono 2 di 4. 10 o più. 10 o più. E se sbaglio posso tirare l'inspiration? Dopo. L'inspiration andrebbe dichiarata prima di fare il tiro, mi sa. Ma Vex, ma ti ha detto la ginecologa, tira direttamente senza la spiegazione. Hai il tuo più dell'aura? Beh, non è un tiro salvezza. Sì, sì. È un tiro salvezza sulla Costituzione. Vex, avrai più 4 no, in più costituzione. È un tiro salvezza, rega, ma questo non è un tiro salvezza, questo è un tiro di concentrazione, che è una cosa diversa. Che è un tiro sulla Costituzione, che sono è un tiro cosa. È un tiro sulla concentrazione. Non esiste concentrazione. Non c'è più concentrazione, non è come la 3.5 è Costituzione. E quindi è un tiro salvezza sulla Costituzione. Vezzi, sai cosa hai fatto fino ad oggi a D&D? Quindi sai di avere il meccanismo per le cose. Ma io ho finito di dire salvezza. Per la tua aura, sì. Costituzione è la prima volta che sì, no, non è. Non so come allora, fai più 5. Avete invitato voi? Ma 20! Adesso arriva il secondo. Ma ogni attacco deve tirare o vale per ogni volta? Ogni volta che becca danni. Altri 7 danni. E l'altro ti manca. Bilico! È vero. Questi erano su. Oh, era meglio tenersi il 3. Due col dado. Perso. Quindi più. Quant'è più? Tanto rega, perso. Beh, non hai 8 per salvezza. Vai. No, sfortuna. Proficiency in costituzione non arrivi a 8. Vez! No! Non ho la proficiency in constitution. Che cazzo di paladino sei? Qual è la proficiency? In carisma. In carisma. Due ne hai? Come tutti. Come tutti. Io ne ho tre. Ogni tanto aggiungi di farlo. Vado un attimo in bagno a fare un'altra striscia. Basta che metti una crocetta e ce l'hai. Ragazzi, comunque io posso distrarre. Puoi rifarlo? Cosa? Arma magica? No, non più niente. Vabbè. Sta via, vai. C'è un arcan tristec. Tristec. Tristec. Tetris. C'è nerfato delle armi magiche, non faccio il caso. No, no, non le ha nerfate, le ha tolte. Le ha tolte. Nerfarle vuol dire che le indebolisci. Cioè, ha proprio tolte. Ci ha tolto le armi magiche, ci ha obbligato. Tecnicamente le avete lanciate via voi, però per passare da un ponte e per passare da un ponte per poi fare cosa? Niente. Ma me l'ha chiesto il mio amico, io l'ho dovuta dare. Ma c'è un coso d'acqua qui, giusto? Sì. Affoghiamole. È finita, vezzo. Ah, loro sì. Dobbiamo tenerle sott'acqua però per un po'. Ah, ho capito. E poi là, questo ci ha costretto. E poi sono lontani. Cioè, nel senso che c'è un po' per arrivare all'acqua. Non è così facile. L'unica è che. Cioè no, vabbè, in realtà sarà Arci a salvarci. Si chiama Arci. E forse Giulio si arriva. No, ma io sono lì. Cosa mi è successo? Giulio come su tutti i combattimenti contro i primannari, sta salendo su una finestra con la spalla tra i lì. Vedrà con l'infesso. È per quello che prendiamo, cioè. Allora, scusa sfortuna. Cosa vuoi fare? Stai bene, cazzo? Sì, sto bene, volevo. Da nuovo cocaina. C'è cioè, quella che ha morso, è stata morsa dall'orso. Ma io sto sempre fotografiando. Adesso non lo so. Come? Ne vuole una messa bene, cazzo. Ne vuole una messa bene, l'altra tra. Ok, allora dalla roccia sentite qualche parola, casto eggs. No. Casti eggs, uova. Ho capito eggs. Ce n'è una su Garrosh e due su Vardistran. Casto maledizione e penalità, diciamo, destrezza. Mm-hmm. E poi due Eldritch Blast. Ok. Su quella su Garrosh o su una di quelle su Garrosh? Devi dargli svantaggio a colpire? No. Ma sembra un no che potevi fare sì, di cui sei pentito. 22 e 15. 22 colpisce. Anche 15. Ma non mi hai risposto se è su quella su Vardistran o su quella su Garrosh o su quelle su Vardistran. Vardistran. Ok. Faccio... Ok. Perché io ero rimasto on top? Io ancora Frank. Tu hai ancora Frank. Due cose cambiare. L'altro non era la sfortuna. Atanas. No, è morta. Vai Giulio. Tocca a te Giulio. Ha ucciso il drago. Attacco quella studenza. Quella già ferita da... Tutto va tolto, tutto! Sì, aspetta, sì. Fa? Lui fa un danno in più. Tutto, anche la dignità. Infatti io e te cosa facciamo? Mi avrisco. Ah no, allora forse mi conviene. Beh, ma ci vorrei stare pensando anch'io. Questo. Io in realtà avrei... C'è la mia. Ed è una delle due sulla. C'è la possibilità che io abbia... Però Vezza contro due. C'è una cosa io da fare. No, perché allora, è subito dopo di lui. Ok. Vabbè, ma se io mi libero della mia, poi vengo su quella. Vabbè dai, allora vado su quella contro Arci. C'è un'ultima cosa che mi... Vado su quella contro Arce, così che è tra più probabile. Il turno in cui lui l'ha ucciso e il turno che ha giocato adesso, io non l'ho giocato. Perché non è ancora... Lui tanto non puoi fare nulla, scemo! Lui l'ha ucciso, hanno fatto due, i loro due, è finito il turno. Tu hanno fatto i lupi che sono i primi. E poi è ricominciato da lui. Sfortuna lui e adesso lui tocca a te, vai. E tu sei subito adesso. No, scusa, ho confuso il suo turno subito, certo. Come... Questa armatura 12. 16 e 13. Colpisce. C'è un'ultima cosa che posso fare. Ah no, di 6, cazzo, dire. Di 8. Ti puoi preparare intanto. E quanto ti stiamo dall'acqua? Puccio. Dall'acqua. Tanto? È nell'altra grotta. Quindi sì. Cioè, 15. In realtà non lo sai, ma poco. 15. Però buttiamo le 15. Giù. Ma ammazza gli schiaffi, scemo. Non ho armi magiche. Sì, lo farei. E questo era... Il primo quanto hai fatto? 16 danni. Dopo Atanas c'è Garrosh, vai. Quanto distiamo dall'acqua più o meno? Allora, la... Da quella che avevi visto tu, l'avevi vista che era 70 piedi fa, cioè 70 dal bivio, ed era 70 dall'altra parte. Quindi qua 70 e 70. Un'oretta di aereo c'è lì. Quindi la pozza dall'altra parte, rispetto dove siamo. Sì, voi siete qua. Presenti i roli simbol. Sono 140 piedi. Personalmente 4 turni. Gli vuoi negare? Non ho capito. Sì. No. Vabbè, ne prendo uno in lotta e poi vediamo. Va bene. Vai anche in ira. Lotta non è un tiro d'attacco. Contrapposto. Contrapposto. No, è una, uno speciale tipo di attacco. Usi un attacco. Quindi non avrei il vantaggio se ci decidi. Lo fa solo una crocetta. Per fare l'inimicizia. Sì, è un tiro contrapposto. Quello serve sui tiri per colpire. Vado in ira anche. Ok. Quindi hai vantaggio su queste cose. Sì. Boh, 26. Ci vuoi ne tiro anche uno. Hai vinto. Sei in lotta con la tua, quindi. Ma infatti, scusa, non c'è modo di fare tipo combattimenti corpo a corpo, soffocare l'avversario? Sì, un modo si può trovare per strozzare uno. Per soffocarlo. Ci vuoi lo troviamo. Molto lentamente. No, seriamente. Ho possibilità, o... Devi vincere una serie consecutiva di prove di lotta e lui deve fallire delle prove di costituzione. Per posso trattenere il filo? Perché non, tanto non ho modo di fargli del male. Adesso inizi a prendere lotta e il prossimo turno puoi iniziare a strozzarlo. Avendo due attacchi non posso già. L'altro spack. Va bene, puoi provare a cominciare a stringergli la gola. Controlliamo se ho vantaggio. Se ne fagli fare più di tanto danni da strangolamento. Cioè il danno, cioè, nel senso, se tu fai in modo che se lui vince una prova di lotta lo strozza, dopo diventa una cosa barata, perché uno vincendo 5 prove di lotta ammazza una creatura che magari ha 300 di vita. Catta. Invece se tu fai in modo che se Sceo vince gli fa dei danni da strangolamento, qualcuno se Sceo riesce a finire danni da strangolamento, dipende quante prove di lotta deve vincere. Ma in ogni caso, se non ha tanti HP è più conveniente fare 5 prove di lotta piuttosto che cercare sono di prove di lotta, e dipende per avere, anche all'avversario, e per avere effetto deve fallire la prova di costituzione. Ma dipenderà dalla taglia dell'oggetto. Sì, anche bene, prova a strozzarla con svantaggio, a meno che non si butti dentro la bocca. Esatto. Per cercare di, a meno che non si lanci, perché è difficile. Okay. Non c'è una posta per grapple, 22 21 14 più 7 ho fatto meno, quindi morta. È così, quindi tu cominci a strozzarla. Ok, vediamo se ha effetto. Non ha effetto. Bene, dopo Garrosh. Okay. Sì, ancora più forte. Wow, choke me hard. Questa non l'aspettavo. Inspiration. Bardistran. Occhio, perché questo master. No, perché non voglio incentivare queste cose. Bardistran. Beh, questo master. Non tocca a me. Non tocca a te. Ascolta. Tu sei dopo Bardistran. Ricordiamo che quindi in Germania ci sono tanti locali. Quindi io ne ho due addosso. Due moncherini con cui difendermi. Esatto. E volevo sapere una cosa. Nell'Hunter's Pack. Sì. Io non posso vedere. C'è un paletto. Non mi serve, dovevo per c'erano le manette, però. È plausibile, visto che certe cose dovrebbero. No, guardiamoci, ci sei esattamente. No, non ci sono comunque. Social, dobbiamo andare indietro. No, vabbè, io tanto devo qua, fare un lotta. Ce l'ho qua, che un attimo. Intanto faccio un lotta, posso prendere una delle due lotta? Con svantaggio? No, una prova contrapposta normale. Va bene. È nell'appendice B. No, è nell'appendice... Anche qua che lo dà un esploratore, no? No, e voi avete il Monster Hunter. Monster. È vero. Nel Monster Hunter c'è... forziere, piedi di porco, martello, paletti... Cazzo di gomma? Holy symbol. Un set di... Ah, giusto! Di riserva. un set di manette e uno specchio di acciaio. Un set di manette. Allora io ho un altro simbolo sacro. Qui c'è un simbolo sacro nell'Hunter's Pack. Tutti voi avete un simbolo sacro. Ma vale per... Eh? Per lui vale? Un simbolo sacro... Se non è qualcuno di particolarmente schizzinoso, non vedo. No, perché. Vabbè, potrebbe anche dire. Ha cambiato divinità, si è convertito. Fiaschetta d'olio, un accendino e tre torce. Ma è un set di manette, puoi scegliere. Sono quelle col pelo rosso, quelle. No, allora, se mi vale come Holy Symbol, ammetto che la Bure però è un action, quindi no. Faccio la vado in. No, scusa, non ho più niente, Salla. E 21 di Atletics, che conosce di sbagliare. Vinci. No, rega, non ho più nulla. Ho tutti gli incantesimi esauriti. Hai vinto. Leon Hands esaurito. L'unica cosa che avrei è il Channel Divinity. Ah, ma detto. L'hai preso il lotto. Interazione con un oggetto è gratuita. Può provare ad ammanettarlo. Non è esattamente la stessa cosa. Ti richiede un'altra azione. Lo puoi provare a fare il prossimo turno. Va bene. Hai preso l'altro attacco, il secondo attacco. Dai, no, Vez, ti muovi, non hai niente, non hai nulla, il tuo turno dura 6 ore però. È durato però tipo 20 secondi. Ma cosa 20 secondi? Hai la manetta, dai che è mezzanotte 10. Lo sai che per lui più di un secondo e mezzo è. Buona carta di ore che parli. In realtà è vero. Tocca a me? L'attacco, guarda che sono un turno, così. Pam, 3 più 7, 10, la becco? Chi è questo? 10, manca. Ma secondo attacco 13 più 7 20 la becco contro di te. Scatto, cosa stai parlando? Io so dire sì o no. 3 più 7 10 5 8 danni, passo, fine. Bravo. Capito? Minchia. Che efficienza. Questo era Pat. Sì. Race. Allora, su uno. Allora Ballistan è 2 addosso, no? Sì. Sì. E uno l'ha preso il lotto. Ok, tiro salvezza su. Saggezza. Figo. Forse vuoi dire tristezza incontenibile. Difficoltà. Perché in triste? Perché in triste? Lo passo, mi dispiace. Vabbè, cosa posso fare? Quindi non hai... Come 13? Quanta di carisma, scusami? Meno 6? Ti hai detto dall'inizio che usa il carisma? Ma anche in Trickster ti usa il carisma? No, ma usa gli incantesimi da mago, sono intelligenza. Sì, ma quanto hai intelligenza? 8? No, 14, anche 2. Vai, il lupo su Arci. 8 più 2 più 3 della proficiency. Quanto avevi di classe armatura? 16, cazzo, hai 3 turni che me lo chiedi. Ti manca con entrambi, porca troia. E quello su Garrosh. Critico. È in lotta, sì. Cioè ricordatelo. È ferma. Esatto. Può farmi un critico. È un po' buono se ce l'ho in lotta. Si è eccitata mentre la soffocavi. Il calore. Non lo so. Che cosa hai detto? Ma quindi rimane bloccata. Ah, sì, anche Marco. 11 più 2. Sì. Sono l'artigliata che ti fa sono 13 danni. Quindi 7. E il morso. Sono 8. Fai un tiro salvezza sulla costituzione. Easy. 12. Bene. Considerato compiotto. Sto tirando veramente alto. Vabbè che anch'io ho fatto schifo che tiro salvezza su. Poi due su di Vez. Stiamo tirando altissimo. Allora. Che devo anche andare. Primo. Sì, ma dobbiamo finire. Classe armatura Vez. Cioè, più di 15. Anche Vez. 16. Perfetto. Colpisce solo. Prende solo con le artigli e fa 9 danni. Ok, l'ho fatto. Avevi il... Volevi ridurre il danno? Usare parole taglienti. Puoi farlo, gli riduci il danno, no? Gli riduco il danno? Anche il danno? No, è l'attacco. Ah, era... è l'altro bardo che... No. Non riduce anche il... riduce il tiro dell'attacco, o dell'abilità. Sì, ma a un certo punto riducevi anche il danno, secondo me. Vabbè, puoi farlo al prossimo. Sai, livellare qui non è Allora, il prossimo col morso ti manca, ma ti colpisce di nuovo con l'artiglio. Vuoi usare parole taglienti? Sì. Prego. Salla, dobbiamo fare un buon avvezzo per un iPad con la batteria che dura di più. Scusa, basta una prolunga. Riesce a convincere i suoi artigli a non penetrargli la carne e quindi manca il colpo. E Vez ti ha appena ucciso. No, no, sono collegati ancora, solo che... E questi erano i lupi. Quindi ritocca a Sfortuna. Sfortuna sta a te. Ok, allora lancio Eldritch Blast contro quello con Batte Arci. Perché sono in basso? Raga, perché manca un po' di batteria. Per rendere più credibile la situazione, voi siete più disposti. Bene, adesso stai lì per... Ok, su quello di Arci hai detto. Colpiscono entrambi? 13 colpisce. E si aggiungerà la storia. Poi questa con lui che si guarda il pacco. Sì, è bello. Così poi potrei così poi lì al posto dello schermo possiamo metterci quello che vogliamo. Quanti hai fatto? 30 danni, 32. Ok. 21 sono forza e 10 necrotici. È messa molto male, ma ancora viva. Direi che diventa la base per i meme. Tu che fai meme. Questi era Sfortuna, hai altro? Sono 8 cadatanas. Sono me? Sì. Attacco. 1-1. 11. Io Giulio stasera... 11 però, lo becco. Vabbè, no, per un pelo l'hai mancato. Ah, ok. Il pelo di lupo perde il pelo. Sono bruciatissimo però. Che moltissimo. Che bruciato, la mia faccia è bianca. 17. C'è troppa luce. Dove siete? Non ti ho chiesto qua che stai attaccando. 17 su qui. Io sono dove c'è Arci, quindi solo uno posso attaccare. Ok. Lo uscivo. Vabbè. Sei da. Ok. Dai, catti che devo andare, faccio l'ultimo turno. Sì, ormai abbiamo finito. Garrosh. E continua a strozzarlo. Vai. Sempre con svantaggio di tiro normale. 24. Insomma. Vince. Ah, vinci! Vince. No, ma che cosa stai dicendo? 20 più 4 fa 24. Come avete detto? Tanto lì dietro, tiraglielo lo sgarazzo. Di quel cazzo che vuoi. Vabbè, però ho due attacchi, quindi ti riprovo. Faccio la campagna e faccio io il master. 24. Fate tutti l'otto. Se fai di nuovo 20, porca troia. Vinci. Vinci. Oh, lui deve fare un tiro sulla costituzione. Lei lui non lo capisce. Super. Super. Vabbè, sta diventando inutile questa cosa, però prendo tempo e non. Però a lei piace. Esatto. Tanto fai critici. Questo era Garrosh. Qualcosa vedete, no? Quindi. Dopo. Guardi, oh, che belli che siete per pizza. Tocca a te, due ore che tocca a te. Il turno ogni volta sembra un buco spazio temporale. Sì, sì, con te. E faccio l'azione per bloccarla con le manette. Ok. Che cos'è? Devi fare un'abilità di meno. Sì, una prova di. Beh, dipende come vuole. Una prova contrapposta. Con la forza, secondo me lui. Oddio, se potessi farla con l'Athletics, gli metterei tipo un. Beh, sì, con la forza. Un ginocchio. Da poliziotto sulla schiena, la gira, sì, ginocchio sulla schiena. Era una leva MMA style. Me lo fai fare con l'Athletics? Sì. Con svantaggio. Allora direi che ho già. Poi posso fare anche peggio. Peggio, sì. E un 11. Beh, potrebbe fare peggio. Lei ha fatto peggio. Ma perché come fanno 20 naturale con lui non arrivano a 11? Ma che cos'è? Quindi l'hai ammanettata. È ammanettata tanta roba. Ammanetti un polso. Con un'altra prova per provare a battere anche l'altro. Hai un altro attacco, quindi tecnicamente sì. Puoi sì. Farlo. Sì. Puoi farlo. Con svantaggio. Sì. No, vantaggio, dai, uno gliel'ha già manettato, è più facile. Che è un tiro normale, nel senso. No. Vabbè. Ah, che buono. Più facile a manettare il primo che il secondo. Ok. 13. Sì. Ok. Non ce la fai. È ancora libero. Vabbè, però ce l'hai in lotta lì, potrei. Grazie, Sceo, per il tuo incoraggiamento. Vabbè. Io comunque ho ucciso, sono io che ho dato il colpo finale. Sì. Attacco l'altro, quello che ha poca vita su Vez. Sì. No, ce n'è uno che poca vita su Vez, veramente. Sì. Sì. Quello che sta manettando. 22, colpisco, sì. No, come quello che sta manettando, sei un pazzo. Scusa, puoi uccidere l'altro? Ma ne uccido l'altro. Uno che voi scegliete uno e lo uccido. Prendi gli altri. Ha beccato tutti e due gli attacchi. Sì. 23, 1, 22. Colpisci. Danni. 7, 7, 14, 10, 24. Passo. State contando, per favore. Sì, sì, sì. Sti sì. Numeri a caso. No. Più 5, più 5. Catta, io a contare il tuo. Non vado, 120. Quando tiro un 1. No, un di 8 più 5, 2 più 6, più 24. Faccio che faccio te. Vinco. 24 hai detto. Vinco. Sì, 24. Giro. Muore. Muore. Race. Aiutami tu. Sì. Che bello. CD 12. 13. Su. Non lo passa. Perso. Si mette a ridere, cade a terra ridendo come va bene. E anche noi. Per... anche noi. E in termini di gioco non ha... Cosa fa? Non attacca? Non... No, in teoria anche se ogni round può riprovare anche se ho attaccato. 3. Nel suo turno può provare a tornare serio? Sì. Già capito. Ma un'azione. Credo sia un'azione che dopo forse alla fine del turno. Sì, immagino alla fine del turno perché sennò... prova a farlo. Ci riesce. Cos'è? E questo era il suo turno. Poi c'è quello su Garrosh. Che lo manca. Bellissimo. E quello su Bardistran che non si è messo a ridere, che continua ad attaccarlo. 16 ti colpisce. Sì, a 16. Che col... ti dà una artigliata, 7 danni. Vai, sfortuna, tocca a te. C'è qualche lupo che non è a terra. Il lo sta ridendo. Ma quello che sta ridendo non sta più ridendo ed è a terra. Ed è quello in lotta con Bardistan. C'è un altro che sta attaccando Bardistan, ma è in piedi. C'è un altro che. Ce ne sono due, sono tutti in piedi. Solo uno è in lotta con Bardistan. Quindi uno è in piedi con un nano avvegliato. Sì. Ok, allora punto quello con l'anno e lancio anche due dritti classi. Cassa armatura 12. Ma non ha più senso che attacchi l'altro su Vez, quello che ha attaccato Arci, così. Dopo sfortuna tocca ad Atanas. Non sei già neanche un totale? E faccio 19 danni. No, perché con tutta la forza. Su quello su Garrosh. Okay. Io lì che però sono un po' di salute. Sì, no, un po' tutti. Dai, uccidiamo. Allora, sono siete quasi. Stacco la testa anche da e faccio una... come ho fatto con Kirill. E poi vi dico anche: io ho ucciso Kirill! Inchinatevi! Inchinatevi al vostro re! Intimidire. Posso fare su forza? Staccando la testa. Posso anche rimangiare il cuore. Se fosse stato vivo, sì, ma da morto. Ma l'ho ucciso nel turno prima. È praticamente la stessa cosa. È praticamente la stessa cosa che ho fatto col capo di Cosi, che l'ho ucciso, gli ho strappato il cuore. Tu meme. Soffio nella testa per pompare il sangue. Cioè, dov'è la forza in ciò? È più una cosa scenografica che di forza. Cioè, strappare il cuore, sì, ok, tagliare la testa. Vabbè, ti strappo il cuore, non è un problema. Vabbè, se mi dici. Oppure gli strappo la testa. Fammelo con svantaggio, perché... Cosa? La prova di forza? Sì, cioè è una prova in cui tu usi la forza e come modificatore... Una prova di intimidire in cui usi la forza come modificatore. Ok. Con svantaggio. Sì. Vabbè, 6, 11, cos'è? 13. Non si sta. Qualcosa? Ah no. Bene, dopo Atanas, Garrosh, oltre a ridere cosa fai? Strangolo. 8. Vinco. Posso riprovarci? Riprovaci. 20 più 7 fa 27. Non stare a tirare il dado, non ce la fai. Vinco. No, non vinco. Hai ragione, vinco, perché poi... tirare il dado? Vinco. Dovrebbe bastare per e poi dovrebbe ti... bastare per vincere, tirare un vinco. Quindi, non so, ma è continuazione. Tanto non è ancora. Vediamo se fa. Oh, comincia a venire soffocato. Oh. Ah, sono solo 30 minuti, ci provo. Quante volte, sì, esatto, quante volte devo riuscirci? Boh, vediamo. Okay. Lo scoprirai. Un paio di miei turni. Bene, questo è un po' di... 15, guardi. Niente, lei non è andata fuori dalla lotta, giusto? No, sempre lì con una maletta, con una maletta un po'. Le riprovo, con svantaggio. Meno spera e meno cose può fare, più parla. Oh. Sì. E... per riempire il vuoto 14. Salgo sempre un po' di più. Ce l'hai fatta. Sì. L'hai manettata? Sì. E ora gli stacco le braccia. Porta le cose. Ah, è vero, la posso. Sì, ah, no, però c'era un'altra contro di me, no? Sì. E poi appunto questa era l'attuazione. Quindi sì. Adesso ti rimane in movimento. Ma prendi le altre manette, ammanettale insieme. No, potrei trascinarla però. Si vicino all'attacco di opportunità dell'altro. Devi fare un'altra azione per trascinarlo. Vabbè, il prossimo. Non è cioè non può essere implicata nell'azione di movimento. Sì, fa trascinarla sì, ma lui ha già usato la sua per finire l'ammanettamento. Race. No, guardi, Patch. Attacco. Aspetta, cosa? Chi? Lei. Più 7,20. Hai vantaggio. Però anche vabbè, tira potrebbe essere l'occasione per interrogare qualcuno. No, non è critico. Tra l'altro ho manettato un lupo in realtà. 6, no, è un mannaro 4, in forma di 10, più 10, 20, 20 danni magici. Controllato. È morente, però è ancora viva. Potremmo per una volta interrogare qualcuno. Senti, tu finito, andiamo a andare. Attacco con la morente. Ok. Al massimo la BAM! Ti stavo per dire hai vantaggio, ma da quanto pare. Sfottilo, fai di nuovo 20, li tira giù. No, è un altro attacco, scusa, è quello dopo magari. Dopo. Scusa, ah, perché 20. Era quella manettata. Sì. Se fai 20, cazzo. Dici che è l'ultima rimasta. No, no, aspetta, no, non attaccare quello, ha ragione lui, proviamo a interrogarne uno. Vabbè, allora... è ammanettata questa tira. Sì, io ho detto quella morente, non sapevo che era quella manettata. In effetti sono arrivato. Manettata no. Quell'altra che attaccava Vez. Esatto. Che ha subito danni da Mamma Marzia. Un po' di bagno. Ce ne sono due. E sono... questi sono 14 danni. Mm-hmm. E poi un secondo attacco. Cazzo. 18 però. Perché io col 19 ha finito. Altri 10 danni. È morta. No, ma anche lei comincia ad essere ferita. Questo però è il terzo attacco. Peccato, però se avessero ascoltato era un bel branco. La prossima volta devo girare con la testa di Kirin. C'è qualcosa che non mi torna. Una è su Sceo. Una è manettata e una è quella che abbiamo attaccato. Tu adesso hai fatto il tuo turno. E prima di te ha fatto Arci. Esatto. Tu sei prima di Arci. Perché hai fatto? Perché Arci non beve il cazzo, forse. Può darsi. Io ero in bagno. No, Arci non ha attaccato. Perché, no, Arci ha attaccato. Sì, e dopo Arci toccava Race, che io ho ignorato bellamente. Sì, ma non posso fare un cazzo. Vabbè. E comunque dopo di te toccava loro. Questo piccolo dettaglio. Arci ha, no, non ha fatto, secondo me. Sì, cosa sì, ha fatto? Ha fatto 20 attaccato. Ed è il penultimo del turno. Quindi sono passato subito a lui, non so pazienza. Per quale motivo. Vabbè. Quindi fatemi fare spiace. Gli attacchi di quelli che non sono rimanettati. Spiace. Allora, uno su Garrosh. e non fa più critico perché l'ha già fatto una volta. Ti manca. Vinco. Vinco. Quello che dopo ferirà Atanas, ma ancora non lo sa. No, lui dice vinci. Vinci. Che vinci, vince. Che continua ad attaccare Vardistran, che in colpisce vano con l'artiglio, ti fa 7 danni. Ma chi? Quell'altra? Sì. Cioè, lì tipo, no, stai. Sì, sono, combattono fino alla morte. 3 danni di morso. Fai un tiro a salvezza sulla costituzione. Oh, finalmente. Ma non è immune. Sì, però più 3. No, è non è immune alle maledizioni, alle malattie. No, il coronavirus è immune. Ma lui o io? Ah, era su di lui. Vardistran. Io ho capito che fosse su di me. Brutta storia. 12. 12. Forse avrò il mio branco alla fine. Beh, bello il paladino Mannaro, però. Tutto, okay. Quindi c'era sfortuna. E Atanas, Atanas, sì, fai i danni che hai fatto. Mannaro può fare solamente morse artigliate. Il tuo round potrebbe durare meno. Sfortuna? Cosa fai? Lancio due Eldritch Blast contro quello che sta soffocando. Ok. È l'unico modo per poter attaccare il tuo Mannaro. Essere orgoglioso. Spero che devo andare. 12 danni. Okay. Non sono tutti a casa da lavoro domani. Hai già fatto il tuo turno? No, nessuno è a casa da lavoro, domani. Ma ormai ci siamo quasi. Io non sono a casa da lavoro. Atanas, fai quello che hai fatto prima. Lavori in casa. Garrosh, fai quello che vuoi fare. Strangolo. 14. Tu hai già stato a lavoro, adesso? Resiste. Non hai detto che sono le attacco. Scuole. Sono scuole. L'università sono sospese le lezioni. Torna anche sull'ufficio. Sono a Milano. Costituzione. Fabbro pure. Qua. Fanno smart working. Tranne lui che è andato in ufficio da solo. Guardi, perché non aveva il computer che funziona. Ah, però Fabbro lascia da casa. E allora, no, ho con la corda. Tiro fuori la corda e la leggo al computer. Però. Qui non ho, cioè posso farlo, dai. Vabbè, ma lo smart working comunque devi lavorare. Dai, la zona di lavorare. Sì, no, beh, sì. Posso farla svenire? Ti ha lasciato a casa. Sforzandola come sta facendo lui. Ah, sì, c'è la possibilità chi infligge l'ultimo colpo può decidere se appunto far svenire il bersaglio invece di ucciderlo. Però io non posso. Però tu, non avendo da armi da reggere, vorrei farla finire, non posso. Vuoi prendere la sua arma? Impiccala. Sto combattendo in questo momento. Dopo sì, io. Adesso. Vabbè, provo a legarla con la corda. Devo fare una tra athletics, immagino. Non c'è proprio utilizzare corda tra le abilità. No, c'è sleight of hand e basta. C'è sleight of hand oppure cioè bloccandola così vorrei fare un athletics tipo sdraiandomi. Devi fare una prova di destrezza per legarla con la corda. Ah, sì, era rapidità di mano. Vabbè, facciamo sta prova, dai. Però senza svantaggio. No, però no, fate io te. Ha detto che sei tentativo a legarla. Se usi la mia competenza più alta. Però devo aspettare il tuo turno. Che adesso? Lo faccio io. Sì. C'è solo lui tra voi. Vabbè, dico, Reis, vieni a aiutarmi. Invece di fare i tuoi stupidi trucchetti. Quindi nel frattempo Pat fa quello che deve fare. È il tuo turno. E loro stanno provando a legare quella che adesso tu puoi staccare la testa con un morso. Ah, devo farlo? No, attacca qualcun altro. È l'ultima. Ce n'è ancora un'altra? C'è la mia anche. Ce n'è una su di lui e una che sto ancora tre, io. Tutte ferite. Ma c'è cosa che ne avrò fatto giù 50 danni da qua. Beh, attacco, una messa male c'è? Sì, ce ne sono tre messe. Vabbè, attacco una, faccio 19 col primo però attacco. Però non quella che sta cercando di attacca quella su Sceo. Ha vantaggio? No, è un tiro normale. Se attacchi quella su Sceo. Anche su quella su di me. Solo quella su Vezza vantaggio. Solo tu. Però, ad esempio, con la difesa non devo attaccarla. No, esatto. Allora, vabbè, allora faccio. Attacca 7, quella su Sce. 19 e 12. 12 colpisco? Sì. Sì. Ah, vabbè, easy. Fai. E 12, dai. Faccio 10, 13 più 10, 23. È molto ferito. E dopo Patk c'era. Quindi provate a legarla. Prego. Utilizzare coccia, rapidità di mano, 25. Ok. Che è la CD che potete usare per slegarsi. Sì. Vediamo se lei riesce ad impedirtelo con una prova contrapposa. Non ci riesce. L'ha legata. Tu l'hai tenuta ferma mentre resta. Sì, sì. Okay. L'ha legata. Se mi dà l'avvantaggio è 27. L'ha legata. L'hai legata meglio. Adesso potete sodomizzarla. Oh. Adesso, avesse fatto il fiocco, prima era solo un nodo. Lei prova a mordere le corde per liberarsi. Le ha legate così. Scusa, non sarà. Le ha legate dietro. Ah, ma è incaprettata. Più che altro può provare a cambiare forma. Braccia dietro e gambe dietro. Sì, tipo... È incaprettata. Ha legato i polsi alle caviglie. Ok. Però, come ha giustamente detto lui, può cambiare forma. Sì, beh, cioè, legare rimane legato. Cambi forma. Le manette, forse. Cambi col forma. Diventa no, un no, perciò. Diventa umano? Un lupo. Un lupo. E quindi è... Non so sì, come... perché diventa più piccola... Ha le gambe dietro legate, al massimo avrà le zampe. No, si spaccherà le cazzo di zampe però facendo così. Dipende che dimensione è, perché se tipo si rimpicciolisce, si diventano più piccoli i polsi. Ma questo non è importante. È comunque legata bracci, gambe e polsi. Quella su Garrosh attacca Garrosh. Adesso vediamo. Se è un lupo normale o posso sfilare? No, però se tu fai un nodo su una cosa grossa e poi lei diventa più sottile, può sfilare. Quello su Vardy stanno attaccando. Eh? 16 la colpisce, 7 danni. A meno che non perda 200 tagli. Attacca lui, tipo, non sì. Me. Tipo, si diventa piccolo. Capito, parliamo di polsi, non parliamo. Quanti danni di ha fatto? No, non sì, non so che come cazzo ha fatto un lupo mannaro. Sfortuna. Cioè io i polsi no, stretti ma appena enormi. Sì, ma mica è legato sul cazzo il lupo mannaro. Dimostralo! Ha fatto 27, Arci. Tira lì separatamente. Adesso te lo leghi, cambi forma e vediamo. Tira, Sallam, diventi motion, diventi duro. Perché cazzo c'è? Perché non interroghiamo questo? E diventi duro. 23. Diventi per colpire. Per colpire? No, 23 danni. 23 danni. Uccidi quella su Garrosh. Cioè, scusami. Motion. Buono. Bagno. Adesso però. Attenzione. No. C'è un... proprio attacco la tizia. Giusto, te lo devo dire perché non si nota bene, guarda che conta anche la 9 danni in primo è messa molto male, ha continuato di merda fino adesso per una cazzata del genere, 15 o 16. Ma che cazzo di valdissima, no, cazzata, non cazzata fumble, cosa no. Fatto uno Garrosh, dai, la tipa che stavi strangolando è morto. E ce n'è un lupo con delle corde addosso e un altro che sta venendo ferito da lei. E io vado in lotta con l'altra per fermargliela. Prova contrapposta ai vantaggi. E interagisco gratuitamente con le manette, vista la bella mossa di Vez, colgo l'occasione per copiargliela. Raga, ha tipo 2 punti ferita. Ah sì? Sì. Allora la fermo solo in lotta. Cioè mi sa molto molto molto male. Sì. 16. Hai vinto. Ah, è rendevole. E la strangolo. No, tirato un 3. E la strangolo. Non puoi. Come no? No. Perché? Hai usato l'attuazione per prendere il lotto. Beh. Ma ho fatto fino adesso 2 volte. Perché la prima fallì. Non ti seguo. Anche dai, che se ne frega. No, questo era Garrosh. Vardistran. Passa. Va. Va. C'è solo una con 2 di vita. Sì. E c'è anche quella giù, se vuoi farla svenire, quella legata. No, aspetta, no, facciamo quest'altra. Lo interroghiamo. Eh no, ma è meglio farla svenire e poi svenire. Legarla svenire. In modo che anche se cambia forma. Okay. Non faccio svenire. È rimasta faccio... solo quella? Sì, tra poco sì. 12 danni a quella là? Mori. L'altra? L'altra è un'impressione. A quale hai fatto, scusa? Una e una l'altra. Okay. 12 danni alla prima, e la seconda. Io sono soltanto. Sì. Ha detto la passo. La seconda 12 danni. Ma voleva finire lui tanto. Eh? Così ha fatto svenire quella legata. Le ho uccise entrambe. Posto. No, una ha fatto svenire. Una l'ha fatto uno svenire. Con danni non letali. Quella... Posso scegliere? Sì, sì, la puoi scegliere, ma io non ho sentito. No, lui no, ha detto la fa svenire, l'ha detto tu. L'ha detto. No, anche perché gliel'ho detto io prima, cioè. L'ha detto. Lo vedevo così. Faccio svenire morta. Cioè, questa era della serie. Andate a convincere gli elfi che la città è sicura. No, no, qua gli avevo detto a Giulio. Sì, no. Se non mi ascolti per voi la tua manina. Sì, boh, ti stavo ascoltando e non sentivo quelle parole. Ah, sì, sentivo quelle parole. Quelle parole. Quella che mi ha detto Giulio. Anche perché io ho detto, puoi fare svenire quella ammanettata. Raga, a riposo. Bene. Raga, devo andare. Il silenzio cala nella grotta. Sentite solo il rumore di catene che tamburi in abisso che sbattono tra, di una catena che sbatte mentre viene tirata e in lontananza dei pianti nella grotta in lontananza dentro la grotta sì. Ma non sarà un bambino vampiro legato pronto ad essere stuprato non è che noi. Non è Race. Non è Race. Non è Race che piange, no? No, Race vabbè, si lamenta. Ma sono lamenti o pianti animali? Stridore di denti. Sono dei pianti gregoriani. Sì, sembra di un umano molto giovane. Va bene, avete visto, avete sentito, avete vissuto il l'episodio XL, il 40 della maledizione di Kat. Puoi fare l'episodio XL? Perché l'episodio XL? Questo, perché l'episodio XL? XL. XL. XL. Perché c'erano i turni diversi in mezzo. esatto. Ma anche perché la tua simpatia è... E... sei un po' piegato. Speriamo che l'audio sia stato buono e grazie per averci seguito. Continuate a farlo sui giornali Tycoons & Dragons, sei del casino di Arci di RGDR, anche sul nostro podcast di RGDR e su, quindi ci potete trovare su Spotify, iTunes, giro. Siamo tra i migliori di player FM, vero Sala? Siamo tra i migliori podcast di player FM, giusto? È corretto, ci vogliamo guadagnare anche per il 2020. Assolutamente. Grazie ancora. E grazie ancora, ci vediamo a Copenaghen. Tenetevi fermo. Ci vediamo la settimana prossima. Oddio, è vero che se Kat continua a non scrivere gli articoli, effettivamente. È probabile. Va bene, alla prossima. Tenetevi forte. C'era anche buonanotte. Non ricordo qual era. Va bene, gente. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.